capito? E allora evidentemente la gente si è appassionata talmente tanto, ma non credo però, guarda, che si sia poi appassionato. Io direi invece più che altro che è pigra, che non vuole più stare al baracchino per varie ragioni, magari perché è stanca di questo apparecchio che so io, o perlomeno perché ha avuto delle esperienze un po' negative nel passato, gente che parlava male, tutte queste belle cose qua, e allora ha fatto sì che la gente si allontanasse. Però ripeto, per me è tutto un altro discorso, il baracchino è una cosa diretta, praticamente come se fossimo quasi di persona, tu per tu, capito? In presenza l'uno dell'altro, anche se siamo distanti magari qualche chilometro, però non credo che il computer possa, almeno su quell'aspetto lì, sull'aspetto del dialogo, sostituire il baracchino, assolutamente no. No, ma quello l'ho pensato anch'io. No, è tutta un'altra cosa. Confermo quello che hai detto, il baracchino è molto più diretto, non è come il computer che è tutto da cercare, da fare, no, è tutta un'altra minestra. È più diretto il baracchino rispetto al computer, diciamo, quello è vero, si conferma. E lo sai cos'è, molte volte, ci sarà molta gente che accende, ascolta, non è nel primo nell'ultimo che ho sentito che lui ha sempre ascoltato i discorsi su cui sempre si faceva, ma stata la tesi, dice, ma me lo puoi entrare, vai un tocco, no, invece non vedo, perché io, tornando al tuo discorso, ho avuto delle brutte esperienze, non mi va di entrare, rimango in ascolto, sto bene così, rimango in ascolto e ciccia, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ripeto, soltanto anch'io in mezzo a queste cose, non me ne frega niente, ma non si vede le cose non vanno, basta tirare una novella qui che boh, non è che te la devi prendere o fare tutto un erba un fascio, diciamo, non è giusto. Con nessuno, io rispetto tutti, ci mancherebbe altro, no, quello no, no, ma voglio dire, secondo me o uno non, o ce l'ha una grande passione per il baracchino, o evidentemente si abbandona, vuol dire che non è così grande la passione che ha avuto. Io ci sono dal 1972, se puoi immaginare, sono qualche anno, no, diciamo 39 anni solamente, e continuo a starci, perché è una cosa che a me piace. Però a questo punto, se non senti mai nessuno, devo ammettere che in pratica l'apparecchio al baracchino è diventata una cosa quasi inutile, anche se ritengo che è un apparecchio da tenere in considerazione, ma evidentemente non tutti hanno la mia idea, capito? È positivo, no, ma io sono della tua idea, la passione, io ripeto e torno a ribadire che mi piace più fare un QSO con il baracchino che stare lì a stare a ascoltare musica o a cantare o compagnia bella. Baracchino per me è tutto, diciamo, sono quali discorsi più diritti e via dicendo. Poi ovvio, oddio, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, se vuole rimanere ascolto, rimanere ascolto, ma io per stare in ascolto non accenderei neanche di apparato, preferisco lasciarlo spento, ma se lo accendo che c'è gente mi piacerebbe anche parlarci, scusami, o no, cosa ne pensi giù? Certo, in effetti è così. Io lo accendo come strada di sentire qualcuno, ma la maggior parte delle volte, almeno il 99% delle volte, non sento mai nessuno. Valenzia, cosa ci vuoi fare? Infatti, adesso sono anche da molto senza sentire Gianni Capri 2, lo stesso, non ho più sentito a Gianni di Itiri, non ho più sentito, non ho più sentito più Natalino, vabbè, per Natalino non so, che ha un problema di antenna e allora quando si è sposato ormai non può mettere l'antenna dove abita, in attesa di tempi migliori. Tutte queste cose qua. Poi Claudio, poi da prima di Natale sono senza sentirlo. E poi chi c'era? E tanti altri. E tanti altri, non ho sentito più nessuno. Va bene così. Dopo ti racconto una storia di Natalina a proposito. Gappa. No, una pezza, non si anche verticale. No, ma Natalino in vettura giù ce l'ha l'apparato. Infatti lui quando c'è da lavorare la mattina ci sentiamo sempre con Natalino dall'apparato che c'è in macchina. E infatti anche lui è dispiaciuto che mannaggia da quando è andato con la casa che non può entrare, non può fare niente, capito? però penso che quest'estate se ne vada dove abitava prima e tra più spesso, infatti non l'ha detto anche a me. Poi riguardo gli altri, Gianni Capri 2, qua piace un pochino, non lo sento, Tore da Itri l'ho sentito ieri, che era impegnato, lui lo sai, noto, è impegnato come DG e cosa, adesso c'è questo carnevale ed era impegnato con altri lavori. Ok, tutto qua, poi adesso gli altri, il mio carino qualcuno mi entra. Vai, raccontami di Nazzarino, vai giù. Sì, ma prima ti voglio dire anche che non ho sentito più ad esempio a Giuseppe Tornado, non ho sentito più a Gianni e Doppio Zoom, o tanto meno ho sentito ancora a Coso, come si chiama, a Pierpaolo e Antonio, poi insomma la gente non ne nessuno, pazienza. Stavo dicendo, ieri no, a un certo momento mi squilla il telefono, mi squilla, cioè premesso, aspetta, ti spiego meglio. Io qualche giorno fa ho fatto una telefonata a Natalino per un cuticino, dopodiché ci siamo salutati e basta e via. La sera, questa è la sera poi, dopo la telefonata che avevo fatto io, tac, mi squilla il telefono, pronto? Non risponde mai nessuno, però sentivo chiacchierare, pronto, ma io non ti sento, chi sei, boh, e fa, insomma, fatto sta, alla fine cos'era, siccome mi era apparso, perché io ci ho memorizzato il numero di Natalino, no? Ce l'ho memorizzato, dunque mi è apparso il suo nome, Natalino, ha detto, ma Natalino non mi sente evidentemente, prendo e chiudo il telefono, mi richiamerà, ho pensato, no? Chiudo il telefono, dopo di un po' mi serviva di fare una telefonata, come ho aperto il telefono c'era ancora Natalino, cioè il nome scritto Natalino, e sentivo queste voci, insomma alla fine, questa è dopo una mezz'oretta quasi, e c'era sempre questa comunicazione aperta, evidentemente si è scaricato tutta la scheda e lui non si era accorto che magari ha schiacciato chissà che, è partita la telefonata al mio numero che è stato ripetuto da quando io l'avevo chiamato poi la mattina, ho capito? Sicuramente si è consumato tutta la scheda così senza che lui ne avesse idea di chiamarmi, capito? Succedono una volta, qualche distrazione senz'altro, magari c'erano in tasca, aspettano qualche tasso per cacciare. È arrivata tutta la comunicazione quasi tutto il giorno, sì, e io dopo mezz'ora che mi aveva squillato ho aperto di nuovo il telefono perché dovevo fare la telefonata ad un cliente, no? Come ho aperto il telefono, tu lo sai, tu mi telefoni a me, no? E tu lo tieni aperto, poi io glielo chiudo, poi quando lo riapro ci sei sempre tu, non è che chiude la comunicazione, e così è successo, capito? E stavo dicendo, io vado per telefonare, come ho aperto ti sentivo sempre così, ma chi è questo? E poi ho guardato il telefono perché mi è apparecito Natalino, mi è apparecito, Natalino si sta consumando la scheda così, evidentemente, e sentivo le chiacchiere di casa sua, le donne che parlavano, lui che parlava, hai capito? E poi a un certo momento, pum, è sparita la comunicazione, evidentemente si aveva consumato tutta la scheda senza che lui se ne rendesse conto che era partita la telefonata, hai capito? Sì, beh, molto probabilmente è successo così, e succede altre volte. Può succedere a chiunque, ci mancherebbe, non ci vuole niente, soprattutto se hai uno di quei telefonini con la tastiera senza il blocco, quella può succedere. Io, il mio ho lo sfoltellino, se non apro lo sfoltellino i tasti sono sempre coperti, non possono partire le telefonate così, capito? Sì, infatti ho fatto prendere uno alla mia 50, avevo quello con i tasti visibili a faccia vista, diciamo, ogni tanto tac, si metteva la telefonata da sola, allora ho fatto comprare un Motorola con lo sfortellino e ho fatto 13, va, chiudi lo sfortellino e chiude la comunicazione. Sì, la cosa migliore è quella, anche perché rimane protetta, rimane dalla sì. Ma soprattutto io che lo uso in falegnameria, capito, con la polvere eccetera, no è molto ma molto meglio, anche se ce l'ho sempre dentro la custodia, però con lo sfogliarellino è senz'altro meglio, quindi almeno eviti di far partire telefonate così inavvertitamente. No, perché poi non pensandoci, quando tu vai a telefonare, ti ha fatto la ricarica stamattina, non c'ho più soldi. Perché dopo non ti rendi conto, capito? Che magari se hai toccato un tasto, non dovevi toccare ed è partita la telefonata, capito? Infatti è così. Io ho cercato di farmi sentire, ho aumentato un po' anche il volume della voce per farmi sentire da lui, con la speranza che riuscisse a sentirmi, magari lui ce l'aveva in tasca, questo telefonino appoggiato chissà dove, io sentivo tutto il movimento del suo QRA, sentivo donne che parlavano, o donna che parlava, che ne so, sarà stata la moglie, sarà stata, poi parlava lui anche, però non sono riuscito a farmi sentire, cioè il mio intento era quello di farmi sentire per farle notare che c'era in corso una telefonata senza che lui se ne fosse reso conto, capito? Sono molto sensibile, infatti c'era un programma l'altro giorno, non so se tu l'hai visto, proprio dei telefonini che intercettavano le telefonate della gente che si dimenticava il telefonino acceso, capito? E tutte queste belle cose qua, no, bisogna stare molto attenti, perché è un computer questo telefonino, sono così, ma c'è una cosa che sono allucinante qua. Sì, un'altra volta sai cosa mi è successo? Ho fatto un numero di telefono, e un attimo prima aveva fatto il numero di telefono un'altra persona, stavano già parlando fra di loro, no? Stavano parlando, e io sentivo tutto quello che dicevano loro, ho fatto guarda un po' il telefono, a volte sembra tanto segreto, invece non è per niente segreto. E te immagini, evidentemente i due numeri, cioè il numero mio che ho fatto io per quella persona e il numero che ha fatto quell'altro, era quasi contemporaneo, no? Era. Però io sentivo il dialogo, mentre loro a me non mi sentivano. Sentivo tutto il dialogo che hanno fatto, avevo chiuso e basta, non mi interessavano gli affari degli altri. No, questo hai ragione, per quello ti voglio dire, se sono dei numeri che si assomigliano più o meno, entrano in conversazione con un altro numero, tu che hai il numero quasi uguale, riesci a sentire la loro comunicazione, lo sai, è proprio così, sembra tanto segreto questi telefoni e poi alla fine stiamo tornando indietro, posso andare avanti. Invece un'altra volta ho il telefono di casa, io abito alle Punte come tu sai, no? E tiro sulla cornetta per fare il numero, per chiamare mio fratello, e a un certo momento ci sento queste voci, senza che io facessi il numero, niente, e sento queste voci. Ho detto chi è che parla? Mi sono intromesso, chiudo il telefono, che non so cosa che mi riguardano. Ascolti, io sono a casa mia, devo fare una telefonata, e c'è lì nel mio telefono, cosa devo fare, se vuoi sapere, sai che cos'era, Antu? Erano le poste di San Giovanni, evidentemente c'era qualche contatto, il giorno era una giornata di pioggia, poi ho chiesto a un operaio, amico della Teleco, ho chiesto, sì, può succedere, perché magari in uno di quegli armadi può essere entrato acqua, può essere entrato, no, per gli armadi della Teleco, e magari ha inumidito i figli e ha fatto accavallare le due linee, capito? Io che cosa ne sapevo che quelli stavano telefonando? Stavo dettando un telegramma alle poste di San Giovanni, stavo dettando un telegramma, non so dove, forse alle poste centrali, che ne so, e io come sono levato la cornetta ci ho sentito questi, così senza fare nessun numero, e io incuriosito ho fatto, ma chi è che parla? Chiudo il telefono, se non si permette di ascoltare, ma guarda che io sono a casa mia, devo usare il mio telefono, me lo puoi proibire, non di certo, capito? Succedono queste cose. Allucinato, a chiudere il telefono, se tu hai sollevato la cornetta per fare un numero di telefono, hai sentito la conversazione, che discorso siamo? Ma di tutte le maniere, giù, di tutte le maniere ce ne sento. Poi infatti ho chiesto, ho detto un amico della così, evidentemente dice c'era qualche armadio dove ci sono tutti i collegamenti dei vari fili eccetera, no? della Telecom, avrà preso dell'umidità, avrà preso quel caso lì e praticamente ha fatto arco, ha fatto e si sono messi insieme, chissà quanti telefoni erano in grado di ascoltare o di ascoltarti in quel momento, perché magari c'era umidità fra i fili, capito? Sì, succede purtroppo, succede. Però uno è ingenuamente, è uno che chiede, ma come mai sollevo la cornetta e pure c'è una cosa spiegata, ma è così, è così. Alle volte l'umidità la, dipende anche dal tempo. Succede. Riuscito a collegarsi alla mia linea e stia parlando a mie spese, stia parlando così, invece no, in realtà erano le poste dell'ufficio postale di San Giovanni che stava dettando un telegramma evidentemente alle poste di Sassari, che ne so, forse per fare l'invio del telegramma, che ne so, boh, ed ecco che c'era questo accavallamento di fuggi, poi tutto si è chiarito e non è successo niente. Sì. No, ma succede. Aguglia. No, ma tante stranezze in questo mondo, tante stranezze veramente. Ma... Incredibile. Va bene così. Una volta già le ascoltavo dal ricordo, dallo scanner, ma quando i telefoni erano a filo, o meglio, che non erano digitali, con lo scanner, con AR1000 e AR2000 si sentivano le telefonate nella frequenza fra i 450 MHz e i 950, una cosa così. Allora i telefoni non erano digitali, tu accendevi l'apparecchio e riuscivi a sentire anche le telefonate, magari non sapevi chi era che stesse telefonando, però lo sentivi, addirittura sentivi la chiamata, lo squillo, no? Quando uno fa il numero che poi il telefono squilla, addirittura si sentiva anche quello, succedeva molto ma molto spesso, cambiavi canale, magari ne trovavi un altro, insomma in qualsiasi momento che tu accendevi il ricevitore riuscivi a sentire le telefonate, se non trovavi un canale trovavi un altro, sempre le telefonate c'erano. Sì, perché l'onda, magari era più forte l'onda dell'apparato, del ricevitore, rispetto all'onda, diciamo, del filo, là, più o meno, io adesso non so come funzionano le cose, ma dovrebbe essere così. Sì, perché prima era una radiofrequenza, era lo stesso che era in aria, così, adesso magari sarà in aria lo stesso, però adesso è digitale, dunque è tutto un sistema diverso dal ricevitore, adesso non li senti più assolutamente, nella maniera più assoluta, non si sentono più le telefonate, anche se prima le sentivo anche della nave, quando la nave partiva la sera alle 8, alle 8 e mezza, che stava partendo da Porto Torres per andare a Genova, e c'erano le persone che forse tramite la centralina della nave stesso si collegava con le famiglie, telefonava, anche quello riuscivo a sentire, ma adesso non si sente più niente, ormai il telefono è digitale e non si sente più niente, capito? Sì, è come se ti ricordi tantissimi anni fa quando le televisioni non c'avevano il decoder, si entrava dentro il televisore, ti sentivano parlare, facevi TV-Ai e tutte queste belle cose qua. D'altronde l'onda magnetica è molto molto potente, capito? Sembra così, ma guarda che quando si fanno gli ex puri vuol dire che le onde sono abbastanza punte, diciamo, ecco. Sì, diciamo che le armoniche possono entrare un po' dappertutto, e prima si sentivano molto spesso, la gente si lamentava perché entravi nella media frequenza dei televisori e rovinavi magari l'ascolto del programma televisivo, addirittura si sentivano dentro gli U-box, addirittura si sentivano anche nei citofoni e tante volte, no, ma ormai non è più così, ormai diciamo che c'è stato un grande miglioramento in tutti i settori elettronici e anche anche gli apparati che usiamo noi sono più filtrati, hanno un diverso modo di emanare spuri e capitoli. Allora ecco che diciamo che si è risolto in parte tutto questo, ormai non si lamenta più nessuno, soprattutto le onde televisori che sono digitali adesso, e non credo che ci sia una difficoltà per poter sentire la televisione, salvo qualche eccezione, ma deve essere proprio rarissima eccezione. Sì, è vero, a me è capitato da poco l'inquilino di sopra di me, dove abito io, l'inquilino di sopra, che mi fa, dice, io l'ho sentita parlare al baracchino, ma detto, beh, mi torna una curiosità, signora, ma lei che telefono ha? E l'ho comprato dove ci dici? E allora, signora mia, va dalla SIP e se lo faccia dalla SIP il telefono, dalla Cina, capito? E entravo dentro il telefono suo. Uno di quei telefonini lì, cosa vuol dire, non è filtrato, non niente di facile. E mi ricordo che negli anni passati lì a San Giovanni c'era il ripetitore della radio, no? C'era. Ed ecco che questo ripetitore radio addirittura entrava nella frequenza dei telefoni allora e disturbava certi telefoni, venivano disturbati dalla radio che trasmetteva, capito? Ma ripeto, adesso oggi è tutto digitale, il telefono, sì, che poi a San Giovanni credo che non ci sia più anche il traliccio ripetitore, perlomeno non l'ho più visto, forse l'avranno tolto, che ne so, ed ecco che tutto si è risolto, capito? Sì, no, ma poi adesso sono più schermati, i telefoni hanno rimodernato un po' tutto, in effetti, ma anche sul fatto dei baracchini, tutto schermato, tutto fatto come dire, provare la vita. Scusa un attimo, mi squilla. Ok. Ci sei giù? Sì, ci sono. E la mia 50 era. Ok, sono passato sul 12 a vedere se c'era qualcuno, non c'è nessuno. ho chiamato, ho chiesto, c'è nessuno sul 12, boh, nessuno. Cioè, riferendomi a quelli che parlano da Porto Torres, perché so che alle volte lì sul 12 ci sono quelli di Porto Torres, ma non c'è nessuno quanto sembra. Gianluca e Giampaolo, non lo so, mi ha dato, vieni, ci sono giorni che li segui tutti i giorni facendo prove, contro prove, ci sono giorni che neanche il minimo accenno. Infatti, ma strano, perché oggi è una giornataccia e non credo che ci sia tanta gente in giro, perché cosa vuoi? Per riuscire ad andare magari da una casa all'altra, sì, già si può fare, quello sì, però sta se in giro proprio, sta piovendo, cosa si va a fare in giro? Per andare in giro così uno si rimane a casa, al caldo, tranquillo, e così famiglia, no? Sì, infatti. Ma Tardi allora sta giocando con la sua squadra, perché lui già lo sa che è impegnato con la squadra di calcio, se no già sarebbe entrato, dammi una domenica, invece no, ma dovrebbe essere impegnato con calcio, Caparoccia. Certo, lo so che va a giocare, vabbè, anche quello è un modo di divertirsi, sì, perché no, caspita. Oggi a dire la verità non sono uscito per niente, quindi stamattina mi sono messo un DVD e mi sono guardato un film, che ho tutta la collezione di John Wayne, io e mi piace il film western, perché sono un film anche lungo, così spezialato uno prende, accende e guarda, nel senso che non devi spremere troppo la mente per capire, non vedi altro che ti sono entrate e via, molti dappertutto a pochi centesimi l'uno. Era un film che è durato 2 ore e 38 minuti, mi sembra, una cosa così, la battaglia di Alamo, un vecchissimo film. Siccome questi nastri ce li ho, non li uso mai, ho fatto bene, adesso ne metto uno, così ho perduto alla visione. Sono bene. belli e sono belli. Io ho per esempio il mio suocero che aveva matto, ogni qualvolta sul 4 ogni tanto le danno questi film western, a me piacciono lo stesso, no, sono dei bei film, mi piacciono molto vederla, ma mio suocero specialmente, ma quando c'è un film western non vuole, oh, non ce n'è per nessuno laggiù. Anche lui è appassionato di film western, ma io ho tutta la collezione che l'avevo fatta dall'edicola, no? Tutti i mesi c'era un CD, c'era 10 euro, 90, 11 euro, e ne ho 42 film, ti puoi immaginare. Diciamo, avrò visto in tutto, ne avrò aperto una decina, poi tutti gli altri non sono ancora da aprire, da vedere, e vabbè, piano piano, col tempo, avrò tempo di guardarli tutti. Anche se devo dire che i film di John Wayne li avevo già tutti seguiti al cinema e tante volte anche alla televisione, eccetera, ma mi piaceva avere la collezione, me la sono fatta, capito? Lo sai cos'è, Giù? Che anche se sono film che hai già visto, fa sempre piacere vederli, guardarli, perché sono sempre dei filmoni, capito? Sì, infatti sono dei gran film, sono veramente, sono degli attori straordinari. È stato John Wayne, è stato un grandissimo attore, indubbiamente. Io ritengo che in quel ramo lì, nei film western, penso che sia, se non il più bravo, ma uno sicuramente dei più bravi attori che ci sia mai stato, secondo me. A parte il fatto che gli americani sono dei maestri, e non solamente in quel tipo di film, ma quasi tutti i film. Sì, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Proviamo a fare qualche chiamata, se c'è qualcuno, Giulio. Avanti sul canale 10 se c'è qualcuno. Io addirittura stavo pensando, ho fatto quasi quasi faccio il quillo a Gianni Capri 2, se c'è. Poi ho pensato, ma forse lo disturbo, ma lasciamo perdere, tanto se accende già si sente. Comunque facciamo una chiamata a chiunque va. Avanti, chi vuole entrare su questo canale, ben accetto. Chi è? Basso, basso, non ti sento bene, ripeti. Cosa ha detto Antonio? Cosa ha detto che sta lavorando? Non ho capito. Oh, chi è che sta modulando il lato opposto? Chi è? Avanti, con la buonasera. Ma Parchetto sono, buonasera, chi è lì? Udimone, ma dove sei in paese? Ah, sto arrivando. Di Giulio Donna, lo sono, dai, modulante dagli punti, Giulio Demonio è. Demonio, non lo sento, bassissimo, ciao Demonio, buonasera. Dunque non riesco a capire quello che dici. Ripeti Demonio, fai girare tu pure, vai per Antonio. Demonio. Ah, positivo. Ah, sei in viaggio allora? Sono uscito da Fuane, adesso sgancio la maschera che ci ha cacciato dietro e mi prendo una cinghia dalla zona industriale di Fuane e lo riporto in Ah, positivo. Ti saluta Giulio Dollaro dalle punti di voi. Giulio, lui ti sente bene, però viceversa dice tu lo senti basso. Va bene, comunque ti ricontraccambia saluti, Giulio. Io che ti ringrazio di voi. Mi dispiace, non ti sento. C'è QRM qui in questa zona e copre la tua radio, copre il segnale, non ce n'è, dunque, però la radio sento il birbiglio, ma non capisco in realtà quello che tu stai dicendo, non capisco proprio. Vabbè, se fosse facendo strada magari troverai una posizione un po' migliore, forse che riesco a sentirti. Allora, uno, fai direi per Antonio, perché se mi chiami a me di nuovo io non ti sento di sicuro. Piatto di muro. Ok, Giulia sta facendo manovra, dai, già riprende subito. Vai Giulia. Ah, ok, beh, certo. Vabbè, vedete che sta lavorando lui, evidentemente. non so, penso che sia con la barra pesante, non lo so se può, se può circolare oggi. E vabbè, dov'è, in quale zona è, non te l'ha detto, non tu. Poi a Proa che sta sganciando sempre dentro il paese, riagganciando per preparare il carico per domani, e a Proa che dai, non si sta muovendo molto, sta solo sganciando e riagganciando la motrice. Ah, io ho capito, sì sì. A Proa che io dovrei sentirlo molto bene, perché ho sempre sentito molto bene da Proa, ma oggi evidentemente è una giornata un po' così. Piove, poi c'è quel REM, sarà per quello magari che non riesco a sentirlo bene, pazienza. Ma il Milan ha vinto, sto guardando adesso in questo momento, ho visto in sovraimpressione il risultato del Milan-Chievo, o meglio Chievo-Milan 1-2. Vabbè, è un pazzo che si è messo lì a festeggiare su 7 gol, sulla sedia che sta facendo il cretino, deve essere qualche tifoso milanista quello. Ma ho il volume abbassato completamente, lo tengo acceso la televisione perché mi sta facendo luce nella camera, se non devo accendere la luce è uguale, non, è, ma, non fa niente. Riprendi. Positivo, sì. No, ma anche a me dice che con questo apparato mi sentivo un po' strano, ma deve essere che si conferma quello che hai detto tu, ci sarà un po' di QRM, magari lui anche se nel movimento è così, dai. Ok, no, tu stai uscendo benissimo, non bene, benissimo stai uscendo, evidentemente ha problemi lui, magari forse di ricezione. Anche perché se io non lo sento, evidentemente l'antenna sua non è delle migliori, per il semplice motivo che, ripeto, come ho detto poc'anzi, io da Proario ho sempre sentito tutti, anche dalla macchina, non ci sono stati mai problemi. Arrivo a Proario, dovrei arrivare molto bene a qualsiasi stazione, naturalmente che abbia un'antenna come si deve, un'antenna che trasmette e che riceve come si deve. Va bene, dai, riprendi tu. Positivo, si conferma Giulia, si conferma. Non basta solo il baracchino, ma deve avere una buona antenna, si conferma. Camaroccio, la Capparola, è una giornata così, cosa che voglio. Io oggi sono andato a ritirare uno, un gomoncino a 2 metri, di 2,20 metri. L'ho messo a posto, così ce l'abbiamo già pronto per quest'estate, Giulia, così ci facciamo qualche pescatina se Dio vuole. Sì, in effetti. Ma io, siccome ho un amico che ha una barca grande, una barca a 10 metri, è larga intorno ai 3,50 metri, una cosa così alta, due piani praticamente, sotto e sopra, con le cuccette e tutto, insomma è una, non è una pilotina, addirittura un piccolo yacht, ma è bello, l'ha tutto rimesso a nuovo, io gli ho fatto tanti lavori, in questo momento è fermo. Questa barca in questo momento è ferma nel cantiere navale che c'è lì a Porto Torres, dove c'è la capitaneria di porto, lì di fronte c'è un cantiere navale, no? Che anche loro hanno fatto dei lavori, ma lavori di rimessaggio eccetera, poi io gli ho sistemato l'interno, perché loro di cosa interna non ne sanno fare, capito? Loro lavorano in maniera un pochino grezza, diciamo, no? Se si tratta di fare lo scafo loro sono bravi, non ci sono dubbi, però poi non ricercare per fare l'arredamento interno, perché non sono finiti a quelle ville, capito? Cioè la loro è carpenteria navale, mentre invece uno yacht ha bisogno di una falegnameria all'interno, non della carpenteria, capito? Anzi, e allora faccio io sempre questi lavori, ma io lavoro sulle barche, ne ho fatto per una trentina d'anni all'incirca, poi mi ero stancato, non l'avevo più fatto per motivi un pochino più, diciamo, più seri, nel senso che i soldi non arrivavano tanto così, e allora avevo deciso di non farne più, però questa persona è uno che paga tranquillamente, questi gliele faccio sempre quando ha bisogno, e anche in questo momento devo fare ancora una piccola cosa, che poi sarà finita completamente, la dovrò mettere in mare la barca, capito? Le prendo. Positivo, bella saper fare anche questi lavori così. Bello saperli fare, è già il tuo mestiere, se ci mancherebbe altro non saperli fare. Ma lo sono tutti, vero Giulio, che fanno quel lavoro di fai tu, no? Nelle barche per esempio. No, non sono tutti, perché è tutta una, diciamo, una cosa tutta diversa da quello che è il lavoro solito della falegnameria, capito? Ci vuole un pochino più di applicazione e diciamo anche un pochino di più di passione, oltre che a una certa maestria anche, perché la barca non è come per dire fare una finestra o fare un mobile o una porta, la barca ha tanti movimenti, tante curve, tante cose, tutto deve essere adattato per bene, deve essere adattato, fatto tutto quanto con cura, utilizzare ferramenta tutte l'acciaio inossidabile, vernici speciali, tutte queste cose qua, capito? Insomma, diciamo che è un falegname finito, come si deve, se uno è un bravo falegname sa dovrebbe cavare, però non sono tutti, ripeto, ma anche se sia un bravo falegname, alle volte questi lavori non li sanno fare, perché io ripeto, non per presunzione, ma uno, io ho sempre detto, chi non ha imparato a Sassari il mestiere di falegname nella ditta Fratelli Caso non è un vero falegname, nel senso che puoi essere bravo, però ti manca sempre qualcosa. Io ho imparato lì, a Fratelli Caso, via di Umberto, tanti anni sono stato lì, ed era la falegnameria dei falegnami più bravi che c'erano a Sassari, o forse in tutta la Sardegna anche. Vai a tu. Si conferma. Ebbene, in effetti per fare lavori negli scafi sono tutte cose centinate, semicurve, curve e bombature, controbombature, non è così facile saperle fare certi lavori. Ebbene, in effetti se non hai quel minimo di esperienza viene un po' maluccio a fare quei lavori. No, sono bene anche farli, perché ritengo che sia una cosa anche, una soddisfazione personale saperle fare certi tipi di lavori, no? Sì, in effetti sì, è una soddisfazione, sono lavori di grandissima pazienza e questo bisogna tenere in considerazione, però se non hai pazienza questi lavori non li puoi fare, perché sono lavori che richiedono un impegno un pochino più grande di quello che è il solito mestiere, il solito lavoro, capito? Pertanto uno si deve adattare, deve considerare tante cose, il peso specifico di quello che utilizzi, perché si sa, non è che tu puoi fare una barca magari e poi a un certo momento ragazzi te la fai più pesante da un lato che dall'altro, e poi si colica un pochino di fianco in navigazione. Ci sono mille cose, mille problemi, mille considerazioni da fare, capito? Ripeto, uno, anche se è un bravo falegname, se non ha il massimo del mestiere non potrà mai fare quei lavori lì. È vero, si conferma. Vediamo un po', faccio la chiamatina di Munio, se è liberato. Di Munio, ci sei ancora? Non c'è. Sì, si conferma quello che ha detto Giulio, sono cose dove ci vuole molta precisione, non è così facile, no? Non è come fare, diciamo, un mobile tutto dritto, tutto via dicendo. E lì ci sono cose che devi dare il peso, il tutto, i diametri, misure, contromisure, centine, curve, non è così, no. È una bella passione anche quella, Non so se ci vuole molto tempo e anche passione, più che altro. Soprattutto passione. E poi bisogna anche sopportare, perché uno è a lavorare sempre in bottega, così poi lì deve andare, tornare, prendere impronte, tornarci, provare, adattare, toccare, lavorare sempre inginocchiato, tutto curvo, insomma non è una cosa tanto semplice e non tutti sono in grado di farlo. Vabbè, comunque va bene così. Io ripeto, sono lavori che faccio da tantissimi anni questi, però poi siccome io servivo prima un'officina, servivo di Sassari, una grande officina dove ci sono tutte queste imbarcazioni così da turismo più che altro, e certo non navi, non ce ne sono qua officine per la nave qua, ma imbarcazioni da turismo così sì, ce ne sono già ed è anche bella grande, ed è chi la dirige anche molto ma molto competente, a differenza di un altro, perché prima ci aveva un fratello come dipendente, poi questo fratello se n'era andato, si è messo in gruppo, si è messo, però non è stato mai capace, bravo meccanico, però non è stato mai capace di portare avanti l'attività, tant'è vero ha creato anche dei problemi alla gente, tipo che so io arrivare il padrone di casa con l'ufficiale giudiziario e chiudergli l'officina così e trovarsi da parte dei clienti all'interno senza poterli prendere, perché lui magari era mesi e mesi che non pagava l'affitto. Allora lo stato esecutivo e ha creato dei problemi anche a certa gente, capito? Insomma, non va bene così. Uno lavoro o di quel genere lì o lo sa fare o lo deve lasciare fare a chi lo sa fare. Beh, esatto. Fate il fatto che poi metti in fronte ai proprietari degli scafi, delle barche e compagnia bella. Se non sei competente, non mi devi fare certi lavori. Io sono nel parere, va bene quello che hai detto, uno se non è competente, è inutile che ti metti a parlare cosa che non è di competenza tua, quando puoi fare solo danno che altro. Infatti, purtroppo nella vita ci sono anche questi avventurieri, ci sono, ma non solamente in fatto di imbarcazioni, ma anche di qualsiasi altro mestiere, addirittura anche in attività commerciale, eccetera. Lo sappiamo, ci sono certi avventurieri che vengono fuori, nascono e vogliono crescere troppo in fretta, magari non sono capaci di andare avanti e succede quello che succede, patatrac e via. Vabbè, comunque è così, cosa vuoi che ti dica? Saremo a vedere lo sviluppo negli anni successivi, cosa succederà, perché mi sa che nel campo del lavoro stiamo andando peggio della frequenza. Adesso voglio fare un paragone un po' stupido, così, peggio della frequenza, in frequenza non c'è più nessuno, lavoro non ce n'è più, e via. Avanti. Buonasera Domenico, ciao Domenico, salutoni Giulio da questa parte in compagnia di Antonio. Vai Antonio per Domenico. Ciao Domenico, ben entrato, ben sgusciato. Antonio e Giulio, così ho capito. Buonasera, ben sentiti tutti e due. Vi devo lasciare un secondino per mettere la benzina alla macchina. Ok, dunque riprendo io. E siamo una mezz'oretta, forse anche di più, con Antonio facendo quattro chiacchiere, e mi sa che sei il primo, no, il secondo che si è affacciato mezz'ora, più di mezz'ora, siamo un'oretta almeno al baracchino, ma nessuno si era affacciato, vabbè, mi fa piacere che sei entrato tu. Avanti a tu. Positivo. E allora dove sei? In prefettura? Stava facendo qualcosa in vettura Domenico Giulio? E ha detto che stava svolgendo un qualcosa, forse qualche manovra, non lo so, evidentemente. Vabbè, già riprende, ha chiesto un attimo di tempo, già riprende fra non molto sicuramente. Vediamo se c'è qualcuno, adesso voglio chiamare Gianni Capri 2, ci sei? Gianni Capri 2 non c'è, se non mi avrebbe già risposto, anzi sarebbe intanto senza bisogno di chiamarlo. Non c'è nessuno, no, tu. Ebbene, su canale 10 non entra nessuno a farci compagnia a me, Antonio Falchetto, e anche a Domenico. No, non c'è niente da fare a tu, nessuno ne ha voglia. Senti a tu. Ehi, vabbè. Ma sono delle volte che non si riesce neanche a parlare, ci sono le volte che proprio la frequenza è muta. No, ma io non accendo, c'è acceso, poi se c'è qualcuno, se sono le frequenze già rispondo, ripeto, ma pazienza, piano piano, cosa ci vogliamo qua, purtroppo non ci si può fare niente. Sì, tornando nel discorso nostro, mi sa che stanno andando a rotto nel lavoro come il baracchino, più o meno. Lo so, è dura Giulia, dura, io le vedo tutti i giorni, mamma mia, guarda, la mettersi le mani in testa. Lo so, purtroppo è così. Vediamo un po' se c'è Bacchisio. Bacchisio, ci sei all'ascolto. Te l'avevo promesso che ti avrei chiamato. Bacchisio, se sei all'ascolto, fate sentire. No, Bacchisio non c'è. O perlomeno non ne ha voglia. No, perché io mi vedo di tanto in tanto con Bacchisio gigante, E gli ho detto, fatti sentire, cazzo, ti chiamo alle volte e non mi rispondi mai. Evidentemente non c'è, o non ne ha voglia di accendere il baracchino, perché anche lui si è lamentato, non c'è più nessuno in questo baracchino. Se la gente non entra, è chiaro che non ci può essere nessuno. Vabbè, pazienza, avanti a tu. Positivo, positivo. Se vogliono entrare già, tutte le porte sono aperte, Giulio. Non disperiamo per quello oggi. Assolutamente no. Mi voleva la gente, o non li vuole entrare, o stanno facendo la cosa. E chi lo sa, giù? È tutto un mistero, un mistero. Avanti, Domenico, avanti. Vicino a me sicuramente, perché c'è un segnale fortissimo. Vabbè. No, stavamo dicendo con Antonio che non c'è più nessuno a Baracchino, tutti in letargo, tutti gli amici della frequenza, tutti in letargo, non c'è più nessuno, pazienza. Comunque noi abbiamo sempre la porta spalancata, anzi, addirittura io l'ho tolta la porta per far entrare la gente in frequenza, non c'è porta qua da me. Chiunque ci affaccia va bene sempre, non ci sono problemi, ci mancherebbe. Vai, Domenico. Quello sì, ho detto, io me lo volevo togliere dal camion, me lo volevo provare in vettura, me lo volevo provare, e ho detto, mo vediamo se c'è qualche luna a casa, tra fine settimana, ma e prima ero parlato ieri, Falchetto, me l'ho montato, basta, e boh, altri non ne ho parlato, e adesso siete in due, in tre persone. Infatti adesso siamo in tre. È vero, sì, e ripeto, ho detto che siamo più di un'ora con Falchetto, la prima persona che è entrata, che sta facendo due chiacchiere, sei tu, anzi è entrato questo demonio anche da Proaghe, ma io non lo sentivo, evidentemente usciva male, pazienza. Avanti, Antu. Positivo, si è entrato un attimo demonio, però era impegnato con la barra pesante, lui stava sganciando e riagganciando, preparandosi per domani, dai. E niente, allora lui, tutta bomba con la radio, buona, buona. E a positivo, direzione va a Campanella, garito, a fare una commissioncina. Campanella, direzione Campanella, caspita, una bomba stai arrivando. Quasi a fondo scala qua, la cosa è buona, eh? Anche qua sta arrivando molto forte, io sono lì, punti sono dove sta arrivando molto ma molto bene. Andare così va bene, così almeno non facciamo fatica a sentire l'amico, e non c'è bisogno nemmeno di aumentare il volume, anzi l'ho dovuto abbassare poco fa, perché era ancora più forte poco fa, mi ci è arrivato con un comodo di radio, va bene così, avanti Umi. No, questo qui se il campo a pelo glielo sa, qualche altro ci fa sentire, lo scendo con 2 watt. C'è bisogno di aumentare, perché si sento benissimo, e a voglia, alla grande, c'è neanche troppo per la truppa. Vai tu. È positivo. Si sente un po' di preparazione, ma del resto è tutto a posto, dov'è? Alla grande, stiamo alla grande, dov'è? Si è abbassato un po' di corpo, così confermi, Giulio. Sì, si è abbassato un po', evidentemente si sta allontanando sempre di più, è chiaro che fanno molto, ma tu lontano vai e meno lo sentiamo, ma comunque lo sento ancora molto forte, io voglia. Ce n'è di birra abbastanza, Dumi, vai. Io non sentivo, no, stavo dicendo a Falchetto, ma lo sento più a Falchetto, vero? Che quella mattina che ho capitato con le queste, ho fatto così lontanato, ancora, andava a terra, bene, sto bene. sono problemi, illustro. Va bene. Anche dice che non ti sentiva più poco fa. Mi dà 2 minuti commotolato, dai, così vediamo un po'. Vai, io faccio, non ci sono problemi. Io non ho problemi sentiti, però se Domenico si allontana ancora magari non riesci a sentirti più. Io no, ancora sono in posizione più favorevole a lui, perché ripeto, sono ai punti, lui è sulla strada per Alghero, dunque magari più in là poi farò fatica anch'io a sentirlo e lui farà fatica a sentire me, però per il momento lo sento benissimo. Vai Domenico. Ehi, avanti, perché sono qua a Villa Marcali, capito? Dove c'è la chiesetta, insomma. Cappa Domenico, dammi 2 minuti che con motore all'altro, dai, questo magari non mi senti. Ma è, cosa sei là? Il mobile come? No, io ti sento, però adesso ti sento. Dammi 2 minuti che con motore all'altro, dai. Allora riprendo io. Sì. Va bene così. Sì, anch'io poi, se stai andando verso Alghero o Domi, anch'io poi a un certo momento non riesco più a sentirti, perlomeno a sentirti in maniera discreta, e anche perché io sono praticamente ai piedi di Monteolo, verso la Ripunti, però c'è Monteolo davanti e incomincia poi a disturbare, la verità. Man mano che ti allontani per Alghero io sì, già mi sentono anche Alghero e io sento loro, però con un po' di difficoltà, capito Domenico? A questo momento io ti sento sempre Radio 5, no? Non ce ne sono dei problemi, ti sento sempre molto forte e abbastanza chiaro, no? Non ci sono. Allora se ti devi fermare a Campanella non credo che troviamo impedimenti nel sentirci, perché dovrei arrivare bene lì e dovrei sentire anche bene, no? Io parlo andando verso Alghero, invece verso Alghero in lontananza, no? Quando incominci a prendere dietro le montagne, o meglio dietro la montagna dove sono io, allora comincia a essere difficoltosa la studia. Vediamo un po' se è attaccato Falchetto sull'altro apparato. Falchetto, è attaccato. Positivo, come va questo? Questo come radio va benissimo come l'altro, io ti sentivo bene, la differenza del radio non è che ne trovo molta, diciamo che forse è un pochino più forte questo di radio, almeno credo. Avanti, e anzi ho fatto sentire da Domenico, sicuramente ti sente meglio. Attento Domenico, come va adesso? Tutto qua, dove? No, non era a casa, dai. Dai, che vanno, gli ho detto, ma un bel po' di tempo senza vederlo a Claudio, prima lo vedevo sempre lì nei pressi di bottega o Antù, in quel bar, però adesso è un po' di tempo, anche perché quel bar che c'era lì in via Pascoli ha chiuso definitivamente, e dunque non c'è più il gestore che c'era, e allora suppongo che Claudio non ci viene anche per quello, anche se c'è un amico meccanico lì che alle volte lui andava a fare visita, e lo vedevo anche lì, ma evidentemente in questo periodo è impegnatissimo, perché so che era molto impegnato in quel periodo passato, con i lavori, poi andava fuori, andava, e dunque ci vuole tempo, il viaggio, il rientro, insomma, non è tanto facile alle volte. Il lavoro è innanzitutto è il lavoro. Bella domenica. Ciao, buonasera, ciao Giulio, ciao Domenico, ciao Antonio. C'è qualche altro? Non ho fatto ascolto per adesso. No, non c'è nessun altro, siamo noi tre, e quattro con te. Ciao Robè, ben sentito dopo tanto tempo, adesso è da molto senza sentirsi. Vabbè, va bene così, comunque dai, evidentemente il lavoro si impegna più di tanto come me del resto, anzi forse dipende più da me, che io non è che accendo molto, molto spesso. Il tempo è tiranno, in poche parole. C'è Antonio Falchetta, avanti Falchetta. Ciao Roberto, ben entrato in compagnia di Domenico, ne ha sentito. Vai Roberto, Domenico, e vai grazie. Cioè, non ho capito però Domenico, il movimento c'è, ciao Domenico. Sì, va Roberto, vuoi arrivando qua, c'è situazione, campanella, la marito, la mia, Roberto, con la buonasera, e poi di l'altro Roberto. Sarà da lavorare anche di domenica, Domenico. Ok, Giulio, no, anche noi ti abbiamo cercato qualche volta, almeno io, non ho più sentito da Giulio, infatti ho detto, se capitavo in zona, ho detto passavo per trovarti, poi invece non è mai successo, dai. Comunque sono contento di risentirti anche a te Giulio dopo tanto, anche io non è che ci sia più di tanto in radio, entrami qualche volta, diciamo verso le 7 quando esco da lavoro, perché durante la settimana, ma di sabato e domenica è molto difficile, e oggi è capitato a te, a vedere se riusciamo a sentire qualcuno dei vecchi amici, e infatti abbiamo sentito a te. Di nuovo Giulio, avanti. Ok, vabbè, sì, ripeto, io di solito accendo sabato e la domenica, e tante volte lascio tutta la serata acceso, anche se mi sposto dalla stanza dove sono in questo momento, però lascio acceso con la speranza che magari di sentire qualcuno, ma invece a quanto sembra in quest'ultimo periodo tutti assenti e non si sente mai nessuno, eccetto qualche portante così sporadica proprio, e allora non si fa in tempo nemmeno ad arrivare all'apparecchio, perché la portante non ci vede nemmeno quella, cioè una portante di richiamo più che altro, e non si fa in tempo nemmeno ad arrivarci, perché ripeto, due colpi importanti per far notare che qualcuno c'è, ma poi quando arrivi all'apparecchio o chiami non c'è più nessuno. Vabbè, pazienza, non va bene lo stesso, non ci sono problemi. Sì, anch'io non ci sono più passato da quelle parti, solo mi sarei fermato a farti perdere 10 minuti di lavoro. Comunque, se tu passi dalle mie parti, già lo sai, il problema non ce ne sono, la porta è sempre spalancata. Di conseguenza mi fa piacere rincontrarti, vederti e cambiare quattro chiacchiere, vabbè. Perciò niente di particolare ad ogni modo. Dai, riprendi ancora, vabbè, fai girare. Ci confermo anche io, lo mi hai detto tu, la stessa cosa. Ok, Domenico, dove sei arrivato? Farai, devo fare spegni, meno male che mi avete rilanciato, io sono arrivato qua a Campanella. Vi devo abbonare per un attimo, fatevi un buon prosieguo, ciao Falchetto, ciao Giulio, ciao Roberto, se coincide a pensarvi, ciao! Ciao, riprendo io, ciao Domenico, buon tutto, dai, se coincide anche la parte mia, ci sentiamo più tardi. Avanti Giulio e poi fa girare per Antonio. Ok. ciao Domenico, salutoni, grazie per la piccola chiacchierata. Comunque sta arrivando sempre bene anche in questo momento, in quest'ultimo passaggio si è arrivato molto bene qua. La radio 5, il di Santiago, non è molto alto, però quello che interessa è la radio, molto bene. Ok, vai a tu. Ciao Domenico, si coincide allora più dopo la rossale, fate la buona e buon divertimento. Ciao Domenico, ciao. Lo prendo io allora, a Domenico l'abbiamo salutato tutti e tre. E allora vabbè, tutto bene, sì, cosa ti volevo dire? Allora, Giulio Munito ha chiuso definitivamente l'ufficina, non lavora più, si è andato in pensione, e vabbè, lui ha deciso così, va bene, non ci sono problemi. Cosa dirti poi? A Salvatore, non l'hai tu sentito, io non di certo, non so se tu l'hai sentito, se per caso lo senti, dai i saluti da parte mia. Vai, vabbè. Sì, l'altro giorno quando sono passato, ti ripeto, vicino a casa tua, non è che ero molto in fretta, allora l'officina, cioè non a casa tua, l'officina tua, laboratorio tuo, ho detto mi fermo, poi era un bel tardi, ho detto non faccio in tempo, mi volevo fermare, e passano lì ho visto chiuso l'officina di Giulio, che l'ha nominato tu, non facciamo il cognome, ho detto ma cosa è successo, qualcosa di tranquillo, ho chiesto al nipote, che si chiama guarda caso come lui, e mi ha detto no, col 31 di cosa ha finito l'attività, ho visto che forse, io pensavo fosse il suo il locale, invece mi ha detto che era in affitto il locale, diciamo, è una vita che lavora, è giusto che si goda anche questa pensione, questa piccola pensione che dovranno dargli se gliel'hanno già data. Sono contento, diciamo, almeno ci avrà altri diversivi, se lo goderà con la moglie, visto che è sempre impegnato tra lavoro e cose varie. E basta. Ok, e Salvatore Maestrale l'ho sentito l'altro giorno per telefono, lo stesso, non so se l'ha saputo, si è trasferito a Calangiano, sta lavorando, dice che sta andando discretamente bene il lavoro, è sempre impegnato, doveva passare, mi aveva promesso che passava a trovarmi, però è più probabile che se capita di zona ci passo io, perché dice sempre impegnato, è diventato nonno per la seconda volta, mi ha detto, e basta, gli ho detto a cercare di sistemarsi qualcosa di antenna per vedere, almeno a provare se riusciamo a comunicare, lui ha detto che ci tenterà. Ok, avanti Antonio e poi fai girare per Giulio. Ehi, positivo, sembra la giornata, stiamo mettendo un po' bene, non molto, un pochettino benino, stavo con qualche riflesso di sole, tutto qua, tutto bene comunque, vabbè, sì. Sì, non c'è nessun problema. Se volete qualche risultato, adesso che mi sono venuto in mente, il Milan ha vinto, la Roma stava vincendo 3-0 e ha perso 4-3, in un quarto d'ora hanno arrivato 4 gol, e la Lazio ha vinto e stasera c'è il Napoli, vediamo un po' come si dice. La Juve pure ha perso, ci ricordiamoci, ha perso 2-0. Sì, quella partita l'ho vista, per carità di Dio, non c'era la squadra, non vedo nessuno proprio della Juventus. Vergognoso veramente. Vai Giulio. Ok, anch'io sono della stessa opinione, è proprio una vergogna, la Juve è proprio una vergogna in questi ultimi anni, vabbè, rimedieranno se ci riescono, poi tengo pazienza. Sì, no, io della Roma ero rimasto al pareggio a 3-3, pensa un po', stavo vicino 3-0 e poi addirittura ho perso, mi stai dicendo tu, io ero rimasto al 3-3 perché avevo la televisione qua e per un attimo avevo visto così sfilare i risultati come sottotitolo, come fanno passare il sottotitolo, no? Ed erano 3-3, allora adesso mi stai dicendo che addirittura ha perso 4-3, non si può dire certo che ha fatto una buona partita. Allora a questo punto è una squadra che vince 3-3 e poi la rimontano e perde 4-3, è proprio terra a terra, allora almeno vabbè, la Juventus la penso, lo so, l'ho saputo e da allora è pranzo, mezzogiorno e mezza, però c'ha una piccolissima attenuante, ce l'ha, non molto, perché la Juve non 10 contro la Lecce, ma potrebbe anche giocare in 8 quando è una bella squadra. Invece sono andati male perché sono dei murti veramente, hanno fatto l'errore, o meglio ha fatto l'errore di toccare la palla fuori all'aria con le mani, il buffone, allora è stato espulso e allora a questo punto qua hanno fatto praticamente un'ora e 20 minuti mi sembra, una cosa del genere, in 10 persone, in 10 giocatori, vabbè, è andata così. Andare furba la Juve. Comunque l'Inter non ha agganciato altri punti nei confronti del Milan, perché il Milan ha vinto, dunque sono rimasti sempre a 5 punti. Va bene così. cioè va bene così, a me non me ne frega niente, però diciamo che il risultato è quello e avanti. Vai avanti, non è. Sì, va bene. Io ho visto, spesso nei partita, ho visto stamattina la parte finale della Juve. Purtroppo Buffon se non la prendeva la gol, vabbè, intanto il gol poi l'hanno fatta da Bu, quindi non cambia niente, perché è uscito poco fuori dall'aria, se non la prendeva con la mano entrava in porta col tiro, perché il colpo non gliene do più di tanto al portiere. La parentesi poi gli ultimi quarto d'ora l'hanno fatto in 10 anche loro, per cui hanno avuto la parità numerica, ma non è servito a niente, perché se non c'è stata nessuna reazione. Ho visto il Milan buona parte della partita, mi è piaciuto a tratti, anche diciamo sull'1-1 poi almeno ha fatto un bellissimo gol patto. E poi ho visto qualche spezzone di Genova a Roma, mi dispiace solo per Ranieri perché è un signore, degli altri giocatori proprio della società non me ne frega niente, perché sono una massa di presuntuosi e devono abbassare la cresta, sembrava che volessero vincerlo loro lo scudetto, invece se con la presunta non si fa niente. Ok, vai Antonio e riprendi. Io vi devo lasciare, mi hanno suonato il campanello, dai, seguici da più dopo, se no ritenetevi tutti super salutati. Ciao Giulio e ciao Roberto, a dopo se coincide. Andrà bene, ok, avanti Giulio. Ok, Anto, ciao, saluto, ci sentiamo allora. Va. E così è ora bene. Invece la Lazio invece mi sembra che ha vinto, no? Confermi? Sì, sì, ha vinto 1-0, ha avuto delle occasioni per farne altri di gol e ha avuto anche occasioni per fare Bari, comunque già va bene anche quello là, sino alla fine almeno il campionato è equilibrato, è brutto quando c'è una squadra tipo l'Inter negli ultimi anni che non riuscivano a prenderla, e adesso almeno ce la stanno giocando. Lunedì c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, anzi Milan-Napoli, vediamo un po' cosa ne esce. Infatti quella è una partita importante, perché se il Napoli riesce a battere il Milan, allora le cose possono mettere male per il Milan, per un fatto mentale più che altro. Però non sai perché, perché in questo momento il Milan non mi sembra che stia girando proprio come si deve, perché ho notato un calo in Ibrahimovic, ho notato, e se non gira Ibrahimovic perde molto il Milan, perché Ibrahimovic, maledizione, è un giocatore che quando in forma fa la differenza, non ci sono dubbi, e sicuramente si riprenderà. Ed è per quello che io dico Milan quest'anno, per me, secondo me, poi si vedrà ancora i conti, si possono fare un bel po' di partite, 13 partite mi sembra che ci sono ancora. E ancora il campionato è lungo, anche se vedo anche io favorito il Milan, è più squadra rispetto alle altre, più continua, almeno non perde, fa qualche pareggio, però almeno non perde. E Ibrahimovic ultimamente è scandaloso, l'ho visto anche io oggi, era vergognoso, proprio strafottente, quando uno non la voleva giocare, per cui a quel punto come farlo riposare. Io avrei tolto a lui che toglieva Cassano nella partita di oggi, gli avrei dato un po' di riposo, vai, gli serviva come stimolo per caricare, però è quel classico giocatore che tiene alta la squadra, tocca un pallone, ti fa una giocata, ti fa fare il gol, come è successo oggi, non dico che l'ha fatto fare perché Robinho è stato un po', diciamo, egoista, dai, doveva giocarla diversamente la palla, se no un altro gol l'avrebbe fatto il Milan. Penso proprio di sì. Ibrahimovic è un gran giocatore, poi bisogna considerare anche questo, dove è stato, ha vinto, almeno parlando in Italia, con la Juve ha vinto, con l'Inter ha vinto, con Milan sicuramente vincerà, io sono più che convinto che si riprende e continuerà a fare come ha sempre fatto, perché è un gran giocatore, è un giocatore che oltre ad avere i piedi buoni è anche fisicamente molto ma molto forte, e riesce a fare delle giocate straordinarie, quasi impossibili, però sono giocate che valgono perché lui riesce a segnare. Vediamo l'ultima che ha fatto, quando la penultima forse, no, per l'ultima partita, quella girata di sinistro che ha fatto, era straordinaria, era da fuori aria, io non so come ha fatto a fare quel gol, ma comunque sarà stato anche un caso, avrà avuto anche fortuna, il fatto sta che l'ha fatto. Sì, sì, no, dal punto di vista fisico non si discute, è troppo forte. Poi c'è piedi buoni, faccia tutti e due i muri, destro e sinistro, di testa. Difficilmente un giocatore riesce a sovrastarlo fisicamente, poi è cattivo giocando, c'è tutta, anzi pure troppo ne ha di cattiveria in certe occasioni, perché caratterialmente è un po' particolare, dai. Però è uno dei più forti giocatori al mondo attualmente. Sì, anche. anch'io la penso così, è un gran giocatore, la verità, è un elemento molto ma molto importante in una squadra di calcio. Sì, no, perché è una squadra che basta pensare che se la mediana, se la difesa, se fa dei lanci lunghi, lui è in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento, perché se lui riesce a prendere il lancio, guarda, lui riesce a concludere a rete con una facilità estrema. Perché tutto questo? Perché è fisicamente molto forte, tra l'altro ha anche i piedi molto buoni, la porta la vede, e come la vede, caspita, non è come Iaquinta ad esempio, no, tanto per dire un nome a caso, che non vede mai la porta, per carità, io non so come ha fatto la Juve a prendere un giocatore del genere, per carità. Sì, sì, è pronto, neanche a me piace. Aspetta, ho sentito qualcuno chiamare in sovramodulazione, avanti, chi chiamava? Boh, quando stavi parlando tu ho sentito qualcuno, addirittura sembrava in banda laterale, USB o LCB, però ho sentito qualcuno, lo richiamiamo di nuovo, se no sto sbagliando. Avanti, chi vuole entrare? Veramente era un disturbo, dai. Ok, continua Giulio, prendiamo un pochettino, se pure la micro eventuale. Vuole entrare. Stavo dicendo, che cos'è, che apparato stai utilizzando questo? Sempre il solito? Sì, sto usando il Galaxy, Galaxy 2, con microfono con la KRF3 da tavolo, tutto lì, 6-7 watt da una cosa del genere, perlomeno stando allo strumento da una cosa del genere, 6-7 watt a seconda del canale anche. L'antenna ormai è messa male perché ci manca la metà dei radiali e dunque mi ero prefissato di cambiarla, ma mi sa che non ne vale la pena, invece considerato come sta andando in malora la frequenza, ma sì, non me ne frega niente a questo punto, è inutile attrezzarsi se poi diventerebbe anche una spesa, finché c'è il tubo, va bene, poi al limite modulerò con il tubo solamente o con lo con lo stilo. Adesso andava bene, 9 più 15 se da parte mia, radio eccezionale, va benissimo tutto. Ma quello è legno, il tale più 3 è legno, l'ho fatto da te. No, no, non è quello, quello originale suo, però non è adatto a questo baracchino, va meglio nell'altro baracchino, va molto ma molto meglio, più chiaro, più forte, infatti a livello che uso questo o l'altro non lo posso usare perché sarebbe troppo forte, capito? Questo diciamo che mi mangia un po' la radio questo baracchino, con questo microfono perlomeno. Ecco sul canale. Sì, avanti Brecco. Ciao, buonasera, ciao Giulio, ciao Roberto, Sandro Porto Torres. Sì, ciao Sandro, mi hai sentito, hai ripetuto tu poco fa, ho sentito quando sta parlando Giulio qualche secondo fa, qualcuno sopra che parlava, voleva entrare almeno, che eri tu, confermi o no? No, negativo da parte mia, io ero qui che stavo facendo qualche cosetta, stavo ascoltando e infatti ho sentito questa modulazione, sembrava in banda laterale, tutto lì. Avanti Giulio. Ok, ciao Sandro, ben sentito, infatti poc'anzi ti stavo anche cercando, poc'anzi, un'ora fa, infatti avevo detto Antonio, perché c'era Antonio Pacchetta, ma non ho sentito più a Sandro, non ho sentito più a Benito, non ho sentito più a Claudio, insomma ne ho elencato un bel po' di persone, colpa mia naturalmente, perché non è che accendo molto spesso, ad ogni modo quando accendo non c'è mai nessuno, trai tu le conclusioni, vai sa. Ok, e vabbè, sai, un po' il discorso del lavoro, un po' la questione del periodo, e insomma è un po' così questa 27. Questa 27 non si sa se carne, se pesce, insomma non si riesce a capire, è cambiata completamente. Un po' ancora, diciamo, c'è ancora un po' la passione, c'è, qualche volta si accende l'apparato giusto per farlo riscaldare, però è arrivato a un certo punto, te lo guardi, te lo fai, dice, ma che cosa ci sono? E niente, così, adesso ero qui, ogni tanto mi metto così a inventarmi qualcosa, perché diciamo la mia passione è stata sempre lobbistica, dell'elettronica, e mi metto sempre lì a fare qualcosa, nel frattempo lo andati giù, purtroppo, tutto lì, riprendi giù. Ho chiesto, beh sì, in effetti così è. Anch'io ho sempre avuto la passione per l'elettronica, ne ho fatto tante di costruzioni, ho perso tante di quelle ore con saldatore in mano, ma adesso già da un po' di tempo non ne ho più fatto per vari motivi. Intanto perché non riesco più a vedere molto bene da vicino, ho bisogno degli occhiali, ma dopo un po', sai, le saldature sono troppo compatte, troppo vicine, mi dà un po' di fastidio, allora preferisco non staccare troppo la vista. Da lontano ci vedo bene, ma da vicino non fugge più, anche se uso gli occhiali, va bene, riesco a vedere, questo sì, però dopo un po' magari mi affaticano troppo gli occhi, allora preferisco non forzare troppo. Avanti, va bene. C'è qualche disbo, lo passi di brutto tu, Giulio, però sento qualche modulazione sotto nel fondo, sente un piccolo disbo, lo sento anche su Sandro, però è un segnale più basso, per cui riuscite a passare tranquillamente. No, la morte della radio, secondo me, un po' è dovuta al computer. Molte persone hanno altri hobby, vanno su computer e trovano altri diversivi. Io sono sempre appassionato, magari non ho la passione da 10 e lode che avevo qualche anno fa, adesso un po' di meno, però io la radio mi piace anche vedermela, ascoltare, fare, sono un grande appassionato. Purtroppo, come avete detto voi, molta gente neanche un po' di poltronite, diciamo, accende l'apparato e entrare, perché sono convinto che l'avrebbero un po' di voglia, però le manca il primo acchitto, dai. Sì, il primo acchitto secondo me sai quale sarebbe, perché tutto dipende secondo me dalla passione, e io per passione la intendo a 360 gradi, nel senso che uno, per poter trasmettere alla radio, deve essere innanzitutto appassionato di elettronica. Se uno non è appassionato di elettronica, alle volte fa anche fatica a trovare gli argomenti per poterci stare in frequenza. Io la penso così, perché? Perché io ho sempre pensato che la radio è uno strumento di comunicazione molto ma molto bello, ma sono per i veri appassionati di elettronica. Tutte le altre persone che sono entrate in radio sono sempre stati di passaggio, capito? La maggior parte delle persone perlomeno sono state sempre di passaggio, sì, hanno durato anche degli anni, però chi ha la vera passione, come ce l'ho io, come ce l'hai tu, come ce l'ha Sandra ad esempio, praticamente ce l'abbiamo nel sangue, ci siamo, anche se non c'è nessuno, l'apparato può rimanere acceso a casa e in ascolto, in attesa che magari qualcuno si faccia sentire. Io la penso così. Vai Sandro. Sì, ma in effetti, oh Giulio, okay. in effetti diciamo non è che hai tutti i torti, perché in effetti deve trascinare, diciamo, un qualcosa la passione. Non lo so, da quando è venuto fuori, diciamo, il computer, il cellulare, diciamo, si è un po' lasciata a perdere, diciamo, la 27, ma non solo la 27, perché io ho sentito, diciamo, altri, ho sentito anche radioamatori, ho vari amici radioamatori dove, diciamo, anche quelle bande lì si è un po' andata a decadere. Forse l'evoluzione del computer, il telefonino, quindi non c'è più questa voga, tutto lì. Che dire, ma la passione rimane sempre, diciamo, se uno ha la passione rimane sempre, magari stacca un attimino, tutto quanto, diciamo, a me la passione è venuta fuori, diciamo, quando, diciamo, ho fatto servizio militare, che poi, diciamo, servizio militare ho avuto l'occasione, mi hanno buttato in mezzo, diciamo, perché avevo fatto, diciamo, il corso come operatore radio, e da lì mi è nata proprio la passione. Addirittura ho fatto il corso, mi avevano sbattuto nei carristi come operatore radio in un carro armato, tu figurati, allora con quelle cuffie strane lì, con il microfono lì, no? non era proprio un microfono normale, era un microfono sulla gola, diciamo, adesso non mi ricordo il nominativo, e tutto lì. Da lì mi è nata la passione, poi la ricerca, però la 27 potrebbe decollare, capito? Perché so che molti hanno l'apparato, lo cedono, lo fanno ascolto, però sono resti. Dottore, mi prendi, Robert? Sì, ma c'è stata una ripopolamento, almeno io ci sono qua, anche se sono sempre appassionato da sempre di radio, da piccolino è sempre piaciuto, però diciamo entrando nella Madonna cittadina ci sono, mi sembra, dal 2004, adesso non vorrei dire che sia una cosa del genere, 2004-2005, proprio la passione che entravo tutti i giorni. C'è stato un ripopolamento in quell'arco di tempo sino al 2008, diciamo, c'erano un sacco di persone sempre sul canale 10, poi c'era 15, c'era l'Alghero, diciamo ci sentivamo tutte le sere accendere, c'era sempre qualcuno, poi ci sono state delle controversie di certe persone, poi ho visto che da lì qualcuno ha abbandonato per evitare i problemi, ha preferito, qualcuno si è spostato su altri canali, eccetera eccetera, le persone sono un po' diminuite, qualcuno ha detto chi va a fare qua, bisticciare, fare, e ha preferito fare, però ho visto che qualche persona nuova si sta avvicinando, niente per dire che in quel gruppo di persone che ascoltavamo qualche anno fa non c'erano, una di queste è Falchetto, uno dei più recenti, e poi vabbè, ho visto a te, tu non so se c'eri gli anni passati, io parlo dal 2005 in poi, ho visto a te, ho sentito a Leoncino, ho sentito altre almeno 5-6 persone nuove che non erano di quel gruppo che sto indicando io. Avanti Giulio. Ok, sì, beh, diciamo che un certo interesse qualcuno l'ha avuto ed è entrato in frequenza, però rimane sempre quella mia idea, secondo me, se non c'hai la vera passione nel, per così dire, nel sangue, sono solo persone di passaggio in questa frequenza. Io mi auguro che non sia così, io mi auguro di sbagliare, guarda, veramente, perché sarebbe proprio brutto non sentire più nessuno, ripeto. Io che sono in frequenza dal 1972, 39 anni, è una vita intera qua, praticamente, caspita. E devo dire che non mi sono mai e poi mai allontanato, mai, sai cosa vuol dire mai? Mi è sempre piaciuto, ho sopportato tutto e tutti mi hanno sopportato. Io sinceramente non ho niente da rimproverarmi e non voglio rimproverare nessuno nel fatto dei comportamenti, eccetera, eccetera, per carità, perché non sono certo io quello che deve sindacare certi atteggiamenti o certi comportamenti della frequenza. Okay. Però devo riconoscere che molta gente si è allontanata proprio per certi comportamenti, però io secondo me la gente deve essere superiore a queste cose, deve fare il suo percorso senza così prendere in odio e senza pensare che un altro lo può privare o lo priva direttamente o che gli impedisca di parlare. Uno, la passione, o ce l'ha o non ce l'ha. Cazzo, tira. Io la penso così. C'è il telefono che mi sta squillando, riprendete voi che io rispondo. Avanti, Sandro. Ok, va bene. E vabbè, che dire, vabbè, ci sono tanti fattori sulla 27. Io avevo staccato per questioni di lavoro, avevo staccato, adesso ho ripreso un paio di mesi, però insomma adesso qualche sera per dire attacco tutto quanto, perché avendo la passione dell'elettronica mi metto lì a autocostruirmi qualcosa, a fare qualcosa, quindi accendo un po' l'apparato, però insomma ci sono tanti fattori che diciamo comportano la 27, e vabbè, niente di particolare, dai, vabbè, ognuno se la passione ce l'ha, la tiene, diciamo, finché vita dura durante, tutto lì. Cosa ti volevo dire? Vabbè, come modulazione, siccome ho adattato questo, allora, diciamo che un microfono, una cornetta, adesso magari ti scappa da ridere, perché mi scappa da ridere anche a me, diciamo che una cornetta di un telefono, storico, che sono andato a scoprire, diciamo, sul sito diciamo di roba militare, e sono andato a scoprire, diciamo, proprio questa cornetta, diciamo, di un trasmettitore, diciamo, americano, tutto lì. Com'è la modulazione? No, la radio è 5, anche se non è eccezionale, nel senso un pochettino carente di tonalità acuta, però diciamo è chiara, niente da dirti. Potresti andare meglio, solo quello ti posso dire. Rispetto a quella digitale, vabbè, Giulio utilizza un altro tipo di apparato, per cui la modulazione è un po' più larga, il modulatore è un po' più largo e un po' più fedele, diciamo, alla più naturale, diciamo. La tua è un pochettino, per fare un rapporto, un pochettino sembrerebbe equalizzata con l'esaltazione di certe frequenze e attenuazione di altre. Comunque è sufficientemente buona. Lei considera, diciamo, che è una capsula membrana, non so se ce l'hai presente, non è la classica diciamo capsula in ceramica o capsula tradizionale, diciamo, che possiamo trovare negli microfoni normali. Questa ha una capsula membrana, addirittura, diciamo, la capsula c'è una membrana esterna che lavora. Non so se hai per caso mai notato su tutte le casse acustiche, diciamo, dove la membrana della cassa vibra. Questa lo stesso fa quel lavoro lì, tutto lì. E forse magari è per quello che ha un po' di tonalità un po' particolari. No, non le conosco, di vecchia generazione hanno fatto così, il diffusore, diciamo, la membrana era in lamelle di materiale leggero, sembrava classico diffusore acustico, ho capito quello che mi sento. E quelli utilizzavano anche come altoparlante, lo stesso microfono veniva utilizzato anche in ascolto, se non sbaglio. È positivo, sia in ascolto che sia in trasmissione, tutto lì, ma niente di particolare, siccome è un sito lì, controllando, facendo, ho visto questo sito, diciamo, mi è interessato un attimino le caratteristiche, diciamo, di questa capsula, chiamiamola capsula, tutto lì. E vabbè, dai, sempre per cercare di tenersi impegnati di inventare qualcosa. Sì, no, diciamo, ne avevo anche uno, qualcuno di quegli altoparlanti lì di vecchia generazione, diciamo, prima era un po' diverso il discorso, facevi soprattutto gli apparati militari, per gli ingombri facevano tutto uno, radio, trasmissione e ricezione dallo stesso traduttore. Beh. Ok, vediamo se nel frattempo Giulio è rientrato. Giulio, se ci serve un colpo. Sì, sono rientrato, aspetta che abbasso perché ho anche cambiato un barattino nel frattempo, ecco, forse questo è il livello, vediamo, no, così, ecco, così, se no la radio diventa troppo forte. Sì, sono rientrato, io una telefonata, sì. Va bene così, dai, riprendi tu, Santo, perché non stavo seguendo queste ultime battaglie, vai. Ok, Giulio, no, niente, stavo, diciamo, chiedendo lì a Roberto, diciamo, che ho fatto una piccola modifica, ma non è una modifica, diciamo, un adattamento, diciamo, all'apparato di questo microfono tipo cornetta di telefono, diciamo, da casa, diciamo che sarebbe, diciamo, una cornetta, diciamo, da non so se ce l'hai presente, i classici microfoni cornetti che usavano a tempi addietro, diciamo, i militari, diciamo, la cornetta e così via. E niente, io tramite un sito ho visto questa cosa, mi ha un attimino incuriosito, infatti stavo provando per vedere un attimino com'era, diciamo, la modulazione. Tutto prima. No, è buono, sono un po' cupa, però è buono, io ti sento bene, va bene che ti sto ascoltando. ascoltando con un altro parlante esterno, che sta ascoltando, dunque diciamo che in linea di massima sento tutti quanti bene, anche quando alle volte la radio può essere un po' scadente, perché uno ascoltare dal baracchino, un altro ascoltare da un altro parlante esterno, una cassa così buona, diciamo, e sento da lì, e sento pulito, solo che un pochino occupa l'assento. No, è abbastanza chiara, è tutto lì. Quello è qualcosa di sul plus. Bravo. Bravo, esatto, sì. Il sito del sul plus dove, diciamo, trovi di tutto di più. Ok, sì, sì. Sì, è una radio più cupa, però abbastanza chiara. Sinceramente io ti ascolto abbastanza chiara. Va bene. Avanti, va bene. Break. Avanti, break. Buonasera a tutti, Gianni Doppio Lu. Sì, ciao Gianni, mi hai sentito. Giulio è dall'altra parte, qua Roberto. Giulio è Sandro. Avanti Giulio, poi fai girare. Ok, ciao Gianni, mi hai sentito dopo tanto tempo. Va bene, c'è anche Sandro da Porto Torres. Avanti Sandro per Gianni. Vabbè, riprendo io, dai, saluto a te Giulio e buonasera. Io già entro ogni sera, non c'è nessuno, ma già entro ogni sera. Ciao Sandro, anche a te. Forse sta cambiando il microfono Sandro, riprendo io, lo richiameremo al prossimo passaggio. Sì, già, io lo sai, io sabato e domenica e basta, però tante volte, come stavo dicendo poc'anzi, anche un affare ad Antonio, io accendo il sabato sera, la domenica sera, lascio acceso e mi sposto magari con la speranza di sentire qualcuno, ma se non c'è mai nessuno chiaramente non posso far sentire nemmeno io, con chi parlo? Con nessuno. Vabbè, evidentemente stavo pensando che la gente ne ha poca voglia di entrare o il tempo, o lo preferisce magari spassarsela in giro, così a fare quattro passi, soprattutto la domenica. Vabbè, vediamo se Sandro è rientrato. Sandro ancora non riprende, sta facendo una prova con i microfoni. Vabbè, avanti Roberto. Giulio, c'è un problemino che ti stai portando appresso, non è continuo, una specie di ronzio, a momenti c'è e a momenti diminuisce. Ah, c'era la televisione, aspetta che la spengo, perché ho la televisione con la cosa abbassata, come si chiama? Di nuovo il telefono, ci picchia. Riprendi tu un attimo che di nuovo il telefono. Cata peggio della Zip, Giulio, senti come te lo chiamo. Avanti già. Il peggio di Giampaolo e Polo Torre, se ogni volta che moduliamo lo chiamo a 6 volte anche. Sì, non è, io penso che sia una questione di che non coincidano gli orari, perché io sul 12 con Porto Torres quasi ogni sera ci sono. Ci facciamo grandi chiacchierate con Sandro, con Gianluca, con Giampaolo Silvestro, eccetera, eccetera. Ogni tanto fa cucù perché si guarda sempre il televisore, ma gli altri ci sono sempre, quasi sempre ci sono, eh? E dipende anche, diciamo, dagli orari, magari a quell'ora lì nessuno accende e noi accendiamo, oppure viceversa. Sì, sicuramente così, no, io sto andando poco e niente, qualche volta accendo, puoi vedere se c'è qualcuno, come hai detto tu, molte volte non c'è nessuno, sono molte volte al computer facendo altre cose perché me lo sono portato in stazione al computer, mi collego a internet, mi mai dove che cosa, diciamo, quando per fare la radio, non la radio, poi molte volte è da qualcuno nel momento che me ne sto andando, per cui non sto neanche a intervenire, come capita molte volte. Ok, vediamo se è diventato Sandro o se è diventato prima Sandro e poi vediamo Giulia. Avanti Sandro. Ok. Sì, anch'io ci sono. Vai, prendi sa. Ok. Scusatemi, ma stavo un attimino commutando. Stavo un attimino commutando e stavo un po' cambiando cavallino. Tutto lì. Se non sbaglio mi sembra aver sentito Gianni. Vedete, ferma. Kappa e Sandro, ti ho salutato, buonasera, io ti ho salutato ma tu non sei entrato, probabilmente stavi facendo il cambio di apparato, dai. Gava. No, stavo dicendo appunto a Giulio che la sera noi sul 12 ci sentiamo quasi sempre, ci sei tu, c'è Gianpaolo, c'è Gianluca, eccetera, eccetera. Ogni tanto una chiacchierata ce la facciamo quasi tutti i giorni. Magari non coincidono gli orari, giù. Eh beh, sicuramente così, anche perché tu lo sai, no, gli orari miei, però il sabato io magari prima, dopo pranzo, salgo solitamente, il sabato e la domenica, mi butto sul letto così, accendo un attimo la televisione, accendo anche il baracchino, e magari rimane tutta la sera acceso il baracchino, e non sento nessuno, sembra fatta apposta, tutte le volte che accendo io non c'è mai nessuno, né di sabato né di domenica. Oggi invece ho sentito la portante, ho sentito Antonio, c'era Antonio, quello di Via Rockefeller, di quella zona lì, adesso non mi ricordo il nome nativo, e abbiamo parlato per più di un'ora, ed eccomi qua, che poi è entrato Roberto, è entrato anche Domenico, è entrato il demonio da Proaghe, non lo sentivo, però usciva male, e dunque poi è arrivato Sandro, ed eccomi qua, ecco, insieme a voi, insomma, ecco. Dai, vabbè. Ti volevo dire, hai cambiato apparato tu da poco fa, Giulio, questo è un altro apparato? Sì, questo è un altro apparato, con un altro microfono, infatti il microfono poco fa l'ho abbassato perché sennò con questo apparato sarebbe troppo forte, il livello di prima sarebbe troppo forte, il potenziometro era troppo alto quando lo installo su questo baracchino qua, capito? Allora l'ho abbassato. Sì, infatti mi sono accorto, hai fatto tu senza dirtelo io, un pochettino altino di coso, di livello microfono, va bene anche questo, anche se probabilmente mi piace un po' più l'altra come modulazione, non so che microfono è questo, ecco, l'altro è un Turner, questo cos'è, lo stesso Turner? Il microfono è sempre quello, solo che ho cambiato baracchino, non so, potrei abbassare ancora, vediamo un po', aspetta, ecco, con gli occhiali, ecco, adesso ho abbassato ancora di una tacca, ho abbassato il microfono è sempre quello, avevo fatto tutte le ispezioni, l'avevo fatto, no, e lo cambio da un baracchino all'altro, però dover rendere di più è sicuramente in questo, come potenza di perlomeno di radio, capito? Sì, no, sicuramente. Di radio, di intensità, parliamo di livello audio, è più forte questo, a parità di coso. Però la radio, parlo come qualità di radio, era un po' più piacevole l'altra. Questa è eccezionale, bella, niente da dire, però quell'altra era un pochettino più, questa mi sembra un po' troppo esaltata di tonalità acute, ti taglia un po' i bassi rispetto a l'altra, era più naturale, conoscendoti in realtà, dico, come voce, comunque bellissima, niente da dire anche in questo caso. L'altra era un po' più rilassata, diciamo, questa più da combattimento, diciamo, come tipo di modulazione, però belle tutte e due, niente da eccepire. Ok, vai Gianni e poi fai girare. Sì, sono d'accordo anch'io con te, Roberto. Ma sono tutti e due abbastanza buone radio. Ma Giulio ho sempre avuto delle buone radio, belle squillanti e cose. Non ci ha più fatto sentire il microfono autocostruito. Ma lei sa, lo sai che Giulio ha costruito un microfono in legno? Bello, se lo vedi, sembra un Turner, bello, lucido, quello sta bene con gli apparecchi di una volta. Ok, vabbè, siete per anche quello fa parte, diciamo, torniamo, diciamo, sulla passione, quello porta anche sulla passione della radio, dell'elettronica, della 27, tutto lì. Ok, Roberto, io ho cambiato un attimino, modulazione un pochettino un po' più bassa dell'altra, come livello di segnale ti si è abbassato naturalmente, sono due apparati diversi, mi immagino, e la modulazione un po' sempre carente di acuti, però sei più basso come livello microfono, poco fa eri un po' più alto microfonicamente parlando. Adesso ti sei sollevato, però ti sta portando a poco per un motore di profondo, tipo vento o cose del genere. Sì, vabbè, non è il, torniamo sempre al tuo discorso là, adesso provo un attimino a diminuire un attimino qua il mic gain. No, non è questione di vento, ma è qua anche lì ho cercato di sperimentare, di fare, è proprio diciamo il mic, l'amplificazione del mic diciamo in se stessa per natura, non è diciamo questione di vento, la dottore. Ma scusatemi, no, è lo stesso apparato di prima o è cambiato anche apparato, oltre che microfono? No, diciamo che ho cambiato diciamo apparato, diciamo questo è un midiband, vecchio midiband da base, vecchio midiband da base, diciamo abito con mic da base, senz'altro conosci alla V908. Io sto pensando che non c'è problema di quel compressore di acciaccio con l'apparato lì. Tu come che posizione ce l'hai quello? Minimo, medio o massimo? No, io adesso il compressore dell'apparato ce l'ho inserito. Adesso lo disinserisco, con il macchine in armanetta. Adesso il macchine è a metà. Adesso non ti sento più. Addirittura non mi senti più. Però sembra che c'è l'autoclave attaccata fissa avvicinata, è proprio un rumore un po' per tutti i fan. Lo so, purtroppo è il problema di questo mic, è talmente assorbe, talmente diciamo è assorbe troppo diciamo like. Lo so, le regolazioni del 908 sono molto faticose da fare, molto precise, ma questo tempo appena si cambia totalmente. Ok, riprendi Giulio, fai far girare. Ok, riprendo io. Sì, in effetti è così come ha detto Roberto, c'è un rumore sempre continuo sotto che poi ha anche un inizio di leggero innesco a secondo dei cosi, delle tonalità. Si sente, io riesco a sentirlo, ripeto, sto ascoltando con una cuffia, non una cuffia, con una cassa esterna e dunque percepisco ogni minimo ronzio e ogni minimo rumorino, capito? Lo sa, tutto lì. No, è forte, è forte. Va bene, vai Gianni. Break 7. Chiamala. Passare alla stazione Alfa Bravo da Sassari. Mi potete dire come mi sentite che sto provando un apparato, grazie. Di che cosa? Di radio o di Santiago? Di radio va bene. Sì, radio abbastanza sufficiente diciamo, prevalenza di tonalità medio basse, carente di tonalità acute, almeno quello che mi indica qua l'apparato e anche l'orecchio, segnale microfonico, livello microfonico un pochettino potete alzare, radio Santiago 9+10 da parte mia. Sì, ero un po' lontano dal microfono, forse così va un pochino meglio. Va bene, comunque l'importante è che si senta bene. Ti ringrazio, buona serata a tutti e buon proseguimento. Sì, sì, adesso è migliorato anche come livello microfono. Ok, avanti Giulio. Ok, saluto Alfa Bravo, se mi vuoi rispondere, dimmi se sei franco per cortesia, se vuoi rispondere, se no pazienza. Capa, confermo. Alfa, tu ti puoi nascondere per una vita intera, quando poi riappari ti riconosco sempre. Vabbè, Giulio Donna sono in compagnia di Sandro da Porto Torres e poi c'è Gianni Doppio Room che per un momento non ha ripreso, poc'anzi quando ho chiamato e con chi hai appena modulato era Roberto Quadrato. Riprendi ancora fra, dai, fai un paio di passaggi insieme a noi, dai, cosa fai? Ti nascondi? Sto scherzando, ci mancherebbe. No, ciao Giulio, buona serata, buona tutti. No, era solo che ci sono alcuni apparati, alcuni rimangono troppo fermi e poi non capisci mai se funzionano o meno, idem per i microfoni che tra l'altro c'è un'altra batteria, quindi ogni tanto devi fare il giro a provarne uno perché per non consumarlo è sempre quello meno costoso, diciamo, soprattutto in queste giornate, nuvole basse, scariche eccetera, che potrebbero rovinarle, quindi te ne dimentichi, ti prende l'abitudine a usare quello che non usi mai, e quindi sì, ce ne sono alcuni che sono praticamente abbandonati, quindi non sa mai se vanno, se non vanno, eccetera, eccetera. Quindi volevo sincerarmi che almeno questo funziona, guardate, scusando gli amici, poi fa girare. Ok, sì, infatti già funziona, altro che poi dai servizi accesi a quanto sembra, perché ci sono dei vari innischi, ci sono, ma dovuti solo ad altre apparecchiature, niente di particolare, non è che stai uscendo con difetti, era solo quello, volevo farti notare solo quello. C'è Sandro da Porto Torres, avanti Sandro. Ok. Allora, ho cambiato tutta storia, cambiato Mike di nuovo, tutto quanto. Ok, ho sentito l'amico, l'ho sentito diciamo in sottofondo, non sono riuscito diciamo a tirarlo fuori, comunque buonasera, appena ascoltato, non è che te lo posso dire perché, ripeto, ti ho appena tirato fuori, avanti. Ecco, non so se adesso vada un pochino meglio perché non sta innescando. Sta innescando, forse non sta più innescando, non so perché ho collegato poco fa l'antenna con un PL, sto bagnato e magari c'è un pochettino di macello, ho messo a 10 watt, non so se riesca ad arrivare così. Ok, un attimo, riprendo, sì, ti ho sentito un attimino profondo, comunque come segnale diciamo 6-7, però c'è una radio diciamo bassa, sono un po' così, riesco diciamo un po' a tirarti fuori. Ok, qua si sentono ventole, lo sento anche io. Roberto, qua com'è? Diciamo un po' più chiara rispetto a prima la radio, livello microfonico un pochettino di più dovresti sollevarlo secondo me. Ok, poi se diciamo in cuffia poi si sentono anche diciamo le parti qua dentro, tutto lì. Ho sentito un passo permesso. No, non ho sentito nessuno. Una domanda all'amico che è appena entrato, Franco, così, se non sbaglio, è un apparato della EC o della Yankee, per curiosità? Della KV. Ah no, sono quelle superiori al 44 come categoria. Ah, ovvio. Funziona malissimo. Come 2000. Ah, infatti si vede, è un apparato di digitale probabilmente, infatti c'è un tipo di modulazione molto particolare, che avevo dei dubbi, ho detto o è un IC o è un TOR, poi invece mi sta confermando TS2000, per cui abbiamo detto tutto quanto. Non è piacevole, però diciamo sulla 27 si adattano molto meglio altri, forse lo sapete anche tu se non ho bisogno di dirtelo, altro genere di apparati su diciamo di livelli più bassi senza salire così in alto. È una curiosità, zona di Sassari, che zona sei? Chi è? Scusa, se ho proprio sbagliato il microfono, sto parlando di antenna. No, niente, io mi sono andato per salutare un carissimo amico, Franco, la più vecchia, la sua a tutti comunque. Ciao, Silvestro! Me l'ha ascoltato. Sì, io non so se sto uscendo bene perché probabilmente c'è la batteria del microfono proprio andata del tutto, quindi era fermo da tantissimo veramente, quindi è naturale che si sia scaricata. Ciao Silvestro, buona domenica. Sì, Silvestro, e purtroppo ho visto che non posso neanche aumentare perché c'è l'antenna tutta bagnata, tanto è vero che funziona veramente molto bene, molto molto molto sotto, e adesso funziona un pochettino così in alto, e quindi quando si asciuga ritorna a funzionare bene qua. Robertino, buonasera, ciao, ben sentito Silvio. No, stavo facendo una domanda a Franco, amico Franco, dov'è? Che zona c'è di Sassari, per curiosità, per capire anche i segnali un po'. La Tedolce e Budi Budi. Ciao. Perché qua adesso c'è aumentato come segnale, sei 9 più 15. Sì, sì, ma sto usando un'antenna particolare, la potenza questa di 10 watt, quindi il minimo, quasi il minimo dell'apparato. Sì, sì, sì, ho capito. Infatti, vediamo, c'era qualcosa che non quadrava, perché sempre dovete arrivare un pochettino più forte, considerando la potenza che stai utilizzando. Come ho detto, comunque, va bene lo stesso. Avanti, chi c'era? Giulio, e poi fai girare. Ok, ciao Giampaolo. Salutoni, Giulio Dolmaro da questa parte, mi hai scambiato per Gian Maria, abbiamo una voce che si rassomiglia, lo so, tante persone mi scambiano per Gian Maria, ma non sono Gian Maria, come ti ha detto Sandro, ok, avanti Gian Pa. Tramite il microfono non è che ci vediamo, di persona non ci vediamo, di certo. Non è importante Giampaolo, non ti preoccupare, va sempre bene, ci mancherebbe altro. Avanti io, Sandro. L'amico della Tedolce che è entrato. L'hai sentito anche a lui, dai, avanti. Sì, non so se avete rilanciato a me perché nel frattempo ho cambiato apparato, non so se sia meglio o peggio questo, quindi ne ho approfittato un attimino per cambiare l'apparato. Avanti Giulio, così forse va meglio. Sì, sì, no, io ero riferito a te, infatti era Gianni di più giù che ti aveva rilanciato, appunto, non so Gianni, è Franco dalla Tedolce, Alfa Bravo, l'hai sicuramente sentito tantissime volte, un vecchissimo CB come me e come te del resto, e come altri, come ad esempio Giampaolo che c'è qualche anno, bello Giampa, tu ci sei pochi anni lì, una quarantina, bello Giampa. Molti anni ci sono, sì, Giampa, e c'è quello 5 però mi hanno allato magari per colpa di chi via Ido per colpa di chi io ho fatto colpa mia mai io ci sono sempre ma quella volta del contorno ripeto lo sapete l'ho saputo perché noi non avevo la possibilità di mettere al su però ho fatto un paio di anni così Roberto Quadrato, Gianni Dupiuru, Franco Forza Bravo, Giampaolo di Porto Torres e anche Salto di Porto Torres. Tutto lì. Riprendi Luca e vai per chi vuoi. Ciao. Vabbè, ok, buonasera a tutti, non so se mi ascoltate, niente, sono qua, eccomi qua, qua, qua, qua, qua, qua, io rilancio per Gianni e fa girare, vai Gianni. Ehi, ti saluto Luca, ben sentito anche a te, dai, ho provato ad attaccare l'altro apparato, ma mi stava andando male lo spezzone, adesso l'ho riparato. Avanti, chi c'era, Alessandro di Porto Torres, avanti. E saluto anche Giampaolo Silvestro, ben entrato. Ok, ciao Luca, ben ascoltato. Ok, ma ne approfitto signori, chiedo le visite, mi sono arrivate delle visite. Salutoni circolari a tutta la Roma, sarai. Buona serata, perché noi visitiamo tutta la prossima. Vai, correti da parte mia, e vai giù. Ok, riprendo io allora per salutarti, Sandro, salutoni, grazie per il QSO, sperando di risentirci molto presto, Ciao ancora, salutoni, ti mando gli amici per i saluti, vai Roberto per Sandro. Sì, Sandro, mi hai sentito come al solito, da parte mia non c'è problema, buona serata e buona giornata domani, se no avremo modo di risentirci magari in serata, ok, chi c'era poi Franco e poi fai girare. Sì, Franco prende, Franco allora fa bravo, saluto l'amico che sta andando via e ripasso per Giulio. Ok, riprendo io di nuovo, mi hai rilanciato ma avevo già salutato a Franco, io giro il microfono a doppio zoom, così sarà lui a salutare Sandro, vai doppio zoom. A pace Sandro, ciao, ben sentito anche a te e buon continuo serata, dai. Robert, riprenditela, dai. Franco, curiosamente, per curiosità, non curiosamente, questo è un altro apparato, così è. Aspetta, ciao Sandro, e alla prossima, buona serata, buon tutto. Avanti, riprendi tu, Franco. Sì, esatto, questo è uno molto più piccolo, è sempre di quella marca, però è più piccolino, è un 480. No, questa è meno, diciamo, meno equalizzata, la differenza tra una e l'altra, questa è molto più naturale, ma non andava bene anche l'altra, però questa è molto più naturale come modulazione, sembra che sei qua a fianco a me, molto, molto reale, come bellissima modulazione. E il processore è disinserito di questo apparato, per curiosità. Luca. No, no, è inserito, In AM normalmente si lascia così. Dovrebbe essere così perché forse innesca anche meno. La chiamata avanti. Se rispondi al telefono qualche volta. Ciao a tutti. Non rimango qua. C'è gente che non vuole ascoltare. Se rispondi al telefono ogni tanto forse è meglio. Ma il telefono di casa dici? Certo, ti chiamo e non rispondi, sembri morto. Claudio, guarda, sono da ieri e non c'ho linea, ci credi? Il telefono squilla per te, ma non a casa mia, non c'ho linea qua. Sono due giorni senza internet. Ho chiamato ieri ma non mi rispondono questi qua. C'è una moneta pagata, pensa a due. Vabbè, dai, ciao a tutti. Già ci sentiamo al limite, sentiamo dopo il telefono. Comunque io vi sto ascoltando. Ciao a Giulio, ciao a tutti, mi fa piacere che ogni tanto mi cercate, ma al momento in cui il canale è frequentato da persone non gradite preferisco stare all'ascolto. A te Roberto. Ehi, ciao, mi ho sentito, se voi non ci sono problemi, già lo sai da parte mia, alla radio la vedo in diverso modo, dai. Ok, fatti sentire per telefono e mi fai sapere quella storia là poi. Tutto a posto Roberto, tutto a posto, ho fatto il CD, comunque già si possa trovare. Ciao, che sono in a te. Ciao a tutti e divertitevi e statevi bene. Buona domenica. Buona domenica Claudio, un saluto. Ciao Gianfra, carissimo, ti stavo ascoltando, sono con Vittorio in dove tu sei, ciao. Ok, io sto provando qua, magari poi più tardi ti raggiungo, ciao. Ciao Gian, a presto. Ciao Claudio, salutoni, mi hai sentito, ieri non avete sentito indizi, che è fettina, vabbè, là. Ci ho chiamato tante volte, ma evidentemente non, gli orari non erano quelli giusti, pazienza, ci sentiremo qua, fatemi, quella con Barella, ricordati, non c'è più Gianni, non so se lo sai o se l'hai saputo, ma già ci sono io da quelle parti sempre, c'è anche Walter e compagnia cantante. Ok, ciao qua, ci sentiamo. Ciao Giuseppe, un abbraccio, ti ho sentito poco fa, ma non sto più scendendo giù dalle parti del mondo. Sono sempre qua a casa, lavoro e basta, no. Un altro pianeta. Meglio solo che mare accompagnato, diceva quello. Ciao a tutti, un abbraccio grande, ci sentiamo. Ciao. Ok, ciao qua, salutoni ancora allora, a risentirci, a presto. Ok, vediamo un po' chi c'è rimasto in frequenza, vediamo se Giampaolo intanto è rientrato. Giampaolo, sei rientrato? Disattivato, chiamo a casa mia e non ti rispondo, cioè domani a casa degli altri per chiamarli, boh, non so, se la faccio invece, prendo e cambio direttamente, cambio linea e ce la abbigliami come te possa fare, avanti Roberto, riprendi tu. Sì, l'altro ti sa, la fottitura di queste cose, di questi gestori è che la linea non è loro, utilizzano le linee di coso, di Telecom, quando c'è un problema difficile che riescono a risolverlo immediatamente, come te lo potrebbe risolvere la Telecom, intervenendo subito, visto che sono i gestori loro della linea. È successo anche a me in officina, mi telefonavano, trovavano sempre la linea occupata, io convinto invece che il telefono funzionasse perfettamente, invece c'erano dei problemi, soprattutto quando sono queste linee VoIP, queste digitali che utilizzano la linea di internet. Le telefonate, tu sei convinto che arriva, ma invece non è venuta. Infatti io ho fatto la prova, praticamente se tu fai il mio numero di casa, squilla, però non ci squilla Roberto, il telefono io qui con la corretta per aprire la chiamata, è muto completamente, muto, sono veramente amareggiato, però cazzo rispondete, dico che quel problema, ti ha mandato due messaggi che c'è un guasto, vabbè, io ho lavorato l'ho pagata, anche se la scaduta l'abbiamo fatto un fax, addirittura non ci ha mandato un messaggio, ci hanno ringraziato, mi hanno pagato la bolletta, facciamo se la rompono le scatole, e poi mi dà fastidio, vabbè, cazzo, vediamo, io domani, aspetta domani, aspetto, poi cambio, non c'è niente. E da lo so, purtroppo così. Ma chi è Fiscali? Non si conferma. Hai provato a spegnere e accendere il modem? Lasciarlo un po' spento, tre minuti almeno. Sì, ma scusa Franco, se non c'è il linea del telefono non cambia niente, non riceve più il telefono, perché intanto prova a chiamare, squilla, sì, prova a casa non squilla, a me nel telefonino mio squilla, c'è risulta che il telefono funziona, ma ce lo funziona. Sì, ma dovevi lasciare un minuto proprio spento, staccato totalmente dall'alimentazione e poi ricollegato. Però non c'è, mi guarda, io lo posso anche staccare, perché allora mi hanno detto che se c'è un problema di linea di lasciare il modem acceso. Sì, ma tu prova a staccarlo per almeno due minuti e poi riattaccarlo proprio dall'alimentazione. Ma in modo che sia tutto spento. Conformo Luca, ce l'ho anche io, lo faccio così, anche se parla pure a me. Hai capito? Anche io capisco, vedi, che fa così. Quindi, ma tu ti chiama roba lì, un telefono occupato, e non parla la lingua. Sono contento, prima che non li impugnate. È solo un problema questi gestori che sono staccati dalla Telecom. Non, io ho degli amici lì lavorando alla Telecom, loro dicono sì, magari basta pagare anche qualcosina di bolletta in meno, però sinceramente non conviene mai, perché intanto la differenza è tra talmente minima perché non è il caso nemmeno di andare a cambiare gestore. Quando tu hai un guasto, una cosa, ti rivolge la telecom e velocemente ti riparano il telefono, mentre invece quando è un altro gestore dice siamo sempre noi che ripariamo, però le cose diventano più lunghe, il tempo non è certamente così veloce come fa la telecom direttamente, capito? Perché gli impianti tutto sommato sono sempre quelli della telecom. Vabbè, comunque ci sono sempre degli sguidi che danno fastidio, questo è scontato al 100%. Avanti Gianni, sì ancora. Ragazzi, sono, sì. No, stavo cambiando la batteria perché sentivo un rumore strano. E in effetti mi sa che è proprio quello. Boh, non lo so, io ti sento bene. Non lo so cos'è la storia. Stavo dicendo, Robert, poc'anzi tu mi hai detto 9 più 15, mi avevi detto, ed ero con l'altro baracchino col Galaxy. Quella stessa potenza, questo che sto usando adesso come segnale? Siamo lì più o meno uguale. Ho capito, sì, va bene. E questo dovrebbe essere anche di meno, perché questo qui è il Tokai, che ha meno watt. Con l'altro mi sembra che dà 6-7 watt, questo ne dà 3,5, 4 di più, ma con una differenza così minima di potenza non è che ci siano poi tante variazioni di segnale, questo è più che normale. Va bene comunque, dai. Riprendi Franco Alfa Bravo. Sì, no, dunque volevo rispondere per quanto riguarda quelle con Tiscali, in modo da non vi fate ingannare, anche io conosco per vari motivi tante persone della Telecom, posso garantire che il servizio è identico. Non è magari forse così che la Telecom quando risponde a un call center, state tranquilli che il problema non ve lo risolve perché non sono tecnici. Prima di passarvi il servizio tecnico dovreste lacrimare. Lo dico anche perché io c'ero la Telecom alcuni anni fa e mi hanno semplicemente risposto che non ci riuscivano a riparare il guasto, quindi era opportuno che me ne andassi da un altro gestore, proprio perché erano incapaci di riparare il guasto che era sulla centrale di Cagliari addirittura. Cose di configurazione allucinanti, ma rispondevano persone con bambini, addirittura mi hanno detto che c'erano anche dei call center per sulle carceri, roba allucinante. Tiscali, che c'è attualmente, funziona, devo dire, molto molto bene, non c'è assolutamente paragone rispetto alla Telecom, molti che sento che c'hanno Telecom sono disperati. Poi è vero che in ogni caso interviene la Telecom, però rispetto ai guasti sicuramente la Telecom ne ha molto di più, anzi diciamo tutto il nome Alice ne ha molti di più, molto molto trascurata. Non so se in quest'ultimo anno siano migliorati, perché prima erano veramente una cosa allucinante, volevano solo i soldi per fare servizio. Tutto lì, non conosco Libero perché quella è l'unica che non ci ho avuto. Ah vai, che aggiungo, va, riprendi. Okay. No, perché ho sentito un accavallamento e non volevo intromettermi per creare caos. Sì, beh, in effetti, io spero sempre di non avere mai bisogno né della telecom né della Tiscali, perché io un paio di anni fa, diciamo anche 3 anni fa e forse anche di più, no, aspetta, 4 anni fa addirittura avevo mandato per mettere la DSL, Tiscali, beh, nel giro di un anno e mezzo non sono riuscito a cambiare la DSL. Mi telefonavano ogni pochi giorni, mi telefonavano per venire, siamo lì, siamo qua, però non sono mai venuti qua. Poi alla fine mi sono staccato, avevo fatto la domanda la Telecom nel giro di una settimana mi ha dato la DSL, ti puoi immaginare, e a me mi serviva, non a me personalmente, ma a mia figlia serviva per lavoro, e dunque se non aveva internet non poteva lavorare. Per dirti, no, la Telecom è arrivata subito qua, mentre Tiscali qui nella zona dove sono io non avevo il modo di poter installarla perché non erano probabilmente pronti gli impianti, non lo so come funzionava la storia. Il fatto sta, mi hanno portato avanti per un anno e mezzo, poi alla fine ho dovuto fare addirittura una lettera con una raccomandata di ritorno, con ricevuto di ritorno, per poter dire la domanda che avevo fatto, perché loro non erano mai arrivati. Allora, devo dirti che addirittura da poco mi hanno ritelefonato, che dice fra 15 giorni veniamo e gli attacchiamo i Tiscali. Ma cosa, gli attacchiamo degli ESN? Cosa mi attaccate? Se io ce l'ho già da 2 anni e più dalla Teleco, cosa mi attaccate? Non mi attaccate proprio niente voi. E non si sono fatti più sentire, devo dire. Insomma, è un macello in queste società, così chissà cose che combinano. Vabbè, là, tiriamo avanti. Vai, Giampa. Al fatto che uno ha tutto il diritto di avere il servizio perché paga, alla volte ci vuole anche fortuna, perché chissà in quale tipo di impiegato incappa, in realtà non risolve il problema più presto possibile. Va bene, dai, facciamo girare avanti già. Dai, un attimino che rimango in ascolto, che è venuta gente a casa e devo dare un grande perché allora rimango un attimo in ascolto e riprendete voi, siamo qua. Vabbè, prendo io allora già. D'accordo, buon ascolto allora. E c'è anche Luca. Luca, ci sei sempre, sì? Sì, sì, stavo cercando dei sviti per bloccare un, come si chiama? Una staffa, ecco. E non la trovo. Ci sono, mi sto ascoltando. Comunque, ripeto, l'ho attaccato da 10 minuti, l'ho attaccato il modem, lo dovrei attaccare, ma è un problema di linea comunque, dai, non mi fa neanche il telefono, capito Franco? Sì, può essere anche il modem che è partito, niente di strano, quello bianco da Pirelli, può avere qualcosa anche il modem, in tal caso lo dovrebbero sostituire. E comunque è sempre un problema a Telecom, perché hanno il Tiscali, in realtà c'ha pochi armadi, la maggior parte degli armadi di rete ce li ha veramente tutti là, quindi anche se Tiscali dice sì te lo riparo, però deve sempre sostare ai tecnici della Telecom, che purtroppo sono in pochini, sono molto molto pochi, perché come sai oramai ne hanno mandato via tanti in pensione eccetera, e non li hanno sostituiti proprio per fare più cassa come tutti, e quindi a loro interessa solo avere soldi e non assicurare il servizio, purtroppo. Quindi è una lotta, si fanno la lotta tutti quanti, tutto lì. Riprendi Giuseppe, ho perduto un po' il conto perché stavo facendo un altro conto di quanto eravamo vecchi, diciamo, in frequenza, tutto lì. Sono anche dimenticato, mi sono invecchiato, guarda, in frequenza, non lo so io, vabbè, ma comunque è una passione che dura a lungo e spero che duri ancora, non so cosa dire, fra, sperando naturalmente di sentire sempre amici, perché mi sa che ormai la gente si sta stancando. Va bene, facciamo girare per Roberto, vai Roberto. Sì, no, stavo ascoltando il discorso. No, per esempio Giulio, probabilmente adesso c'è uno dei più anziani. Chi c'è più anziano? Giovanni, più giovane di te o più anziano? Giovanni è più anziano di me. Più anziano di me è frequente chi c'è rimasto. Te lo dico subito. Giovanni, Mario, se sta ancora modulando, non lo so, ma penso di sì. Poi, e altri che ci sono. Sai che no... Forse, nessuno, credo nessuno, non credo proprio nessuno, guarda, Gio Maria e Mario credo, anche in età, io ho 69 anni a aprile, insomma, diciamo che gli anni ce li ho, però da 72 frequenta, ma poi tanti altri ce ne sono, come ad esempio Gianni, lo stesso è un vecchio CB, Claudio, poi non ne parliamo, con Claudio più o meno siamo nello stesso periodo, poi chi c'era anche nello stesso periodo mio, fammi pensare, forse Giampaolo, non lo so, Giampaolo, ma tu più anziano sei di me o più giovane? Credo sei più giovane, confermi? No, io sono del 60, però i due gruppi sono da tanto. Ho capito, no, io sono 42, se vuoi immaginare, sono state frequenza nel 72, sicché ai tempi dei vari Carciofo, eccetera, eccetera, e tutti quelli di portatura, quando si giocava a Battaglia Navare o Giampa, alle 2, alle 3 del mattino, anche oltre, si andava e si giocava a Battaglia Navare al Baracchino, tempi passati, belli, belli erano veramente, vabbè, ai tempi di Mariolino, Buonanima, di Alghero e tanti altri, adesso non mi vengono più nemmeno in mente i nominativi, però ho un libro dove ci sono tutti i nominativi vecchi, c'è un libro, una specie di quaderno o Giampa, dove ho segnato tutti i nominativi dei vari CB che ho sentito allora, proprio negli anni 70 eccetera eccetera, e da 70 in poi, da 72 in poi, se io sempre ce li ho. Va bene, dai, facciamo girare per Franco, vai Franco. Giulio. Sì, c'è qualcuno che chiamato. Io sono molto più giovane di voi in termini di età anagrafica, però io ho iniziato molto presto, che avevo credo 14-15 anni, perché avevo proprio la passione da bambino, quindi c'ero anch'io a quell'epoca. Mamma mia, meglio non pensarci, sono passati un po' troppi anni. Avanti, chi voleva entrare? Buonasera Franco, qui Gianni Capridone, che ti cordializza dal QTH di Muro, saluto Roberto, saluto il carissimo Giulio Bollaro, mi sembra che c'è anche Luca, è così che stiamo parlando di frequenza. Anche io, carissimo Franco, sono datato 1972, riprendi? Ma cosa c'è Giulio oggi? Cosa c'è? Come si dice? Capri, abbaccia un po' che c'è dopo altro comunque. Ricchetti, così è. Sì, non ho capito. Che numero chi era? Gianni Capirue, ciao Gianni, salutoni. Sì, stiamo facendo memoria dei vecchi CB e diciamo che c'è una ruota qua di anziani della frequenza, non di età, di età sono io anziano, ma di frequenza sicuramente in tanti. Questo non ci piove, oh Gianni, avanti Gianni Capirue da Munos. Sì, grazie Giulio, con la buonasera di nuovo, sì. È una passione, è una malattia che non c'è cura, e chi la prende proprio come l'ho presa io, penso che durerà in eterno. È una bella cosa, carissimo Franco, e poi sono anche un collezionista di questi vecchi paracchini, e io non tantissimi, ma posso dire che un po' ce li ho, hai capito, caro Franco. E rimetto in tutto adesso l'amico Roberto di San. Avanti Roberto, Capri 2 ti rimette il cambio, vai. Stai leggermente saturando Capri, sia di livello microfonico che di diretto, abbassa un pochettino il microfonico. Ok, mi hai sentito Capri, già lo so, non ci sono problemi, anche con te, sempre un piacere. Giulio, una domanda, il più anziano di età probabilmente, che non abbiamo più sentito, è Manuele, così è? Sì, Manuele, mi ho dimenticato anche di Manuele. Sì, ma Manuele è più o meno l'età di Gio Maria, credo, perlomeno. È più grande di me ad ogni modo. No, ma se c'è ancora Mario Moro non lo so in frequenza, ma penso di sì, non lo so, io sono qualche anno che non lo sento. Stavo dicendo, penso che il più anziano di tutti di età è Mario. Poi c'è o è Gio Maria o è Emanuele, ma forse se fosse Gio Maria, forse qualche mese più di Emanuele, perché credo che Emanuele è intorno ai 73-75, suppongo, non sono di preciso, ma grosso modo sarà quella l'età. Ma siamo lì, dai, siamo tutti, siamo tutti lì, vabbè, vai. Ok, adesso proviamo a fare lanciare il nuovo a Capri, che mi sembrava un pochettino di sotto prima. Avanti Gianni, vediamo un po'. Ok, ha passato un pochettino questo affarino. Mario Mao, comunque Giulio, l'ho sentito, sarà un fornitore di FAP con Gio Maria, già c'è la stazione, poi tranquillo che modula Mario Mao, ogni tanto sul 17 modulo io qualche cosa, non intervengo, vi lascio parlare, sono in ascolto, che mi piace molto ascoltare, così no, lo conosco da quando sarà. Era anche il servizio nel lavoro che faceva, persona cordialissima, tanto di cappello e una persona ammirevole. Sì, c'è la stazione con Gio Maria, si sa che sono culo e camicia. Bene, io voglio rilanciare invece all'amico Giampaolo a Porta Torres, e si ricorderà quando modulava a Toccai da Porta Torres, dammi conferma Giampaolo. Tranquillamente. Ma a capo 2 comunque me non hai sentito, grazie, già un giorno che proprio stiamo ricordando oggi, e oggi sono giovane per quanto riguarda la 27, grazie, dove la vera vera. Eh sì, qua c'è la Tocai, c'è la del Tito Bianco, Capo Whisky, Calciofo, Buonanima, Capo Whisky Buonanima, Bartolomeo, XGL Buonanima, questo. Di frequenza sono giovane, sono sempre stato, come ho detto prima, molto appassionato da piccolino, molte volte capitava di ascoltare, avere amici che avevano il baracchino, però non ho mai avuto il piacere di inserirmi, dai, non avevo l'apparato purtroppo, qualche volta con quei walkie talkie capitava di sentire qualcuno un po' più forte degli altri, riuscivi a sentirlo quando trasmetteva su quel canale in cui era canalizzato quel walkie talkie. Io ce l'ho da 5 anni, più o meno 5-6 anni qua la passione. Il primo che può confermare se c'è ancora è Luca, il primo ascoltatore che mi ha ricevuto, dai, in assoluto avevo un portatilino della Intec con l'antenna in gomma, eppure mi sono fatto sentire da lì, piano piano sono passato con la Mary Grand Prix e poi con la Matova e poi tutto il resto degli apparati che c'ho adesso. La passione c'è sempre, comunque mi è sempre rimasta, un pochettino di meno rispetto al boom iniziale di, diciamo, come ho attaccato, però mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre, mi auguro che mi duri finché vivo questa passione della radio. Ok, rilanciamo, vediamo il giro a Franco e poi fai girare per cosa, per Gianni Capri. Sì, ok, ne approfitto per il micro per salutarvi, perché devo passare un po' in alto perché sennò mi mettono assente ingiustificato e mi picchiano. Ok, buona domenica a tutti, ben ascoltati e buon proseguimento. E rilancio all'amico lì di Muro, salutandolo, sperando di sentirlo quanto prima, in modo che anche qua un pochino si ripopoli, perché piano piano stiamo andando in estinzione, sia su sia giù e sia in mezzo. Speriamo che duri. Ciao a tutti, buona domenica. Riprendi Gianni Di Mondosso. Grazie, grazie Franco, è senz'altro. Ciao. Che si ripopoli come vecchi tempi la roba, fa sempre piacere ascoltare delle persone per cambiare quattro chiacchiere in santa pace, tutto io, soprattutto con vecchi CP, comunque anche Giulio ne ha roba, un po' operata mi ha letto perché c'era riscatto lui e quindi anche lui qualche cosettina degli anni 70 gli è rimasta e non so se sta usando un toccaio adesso, comunque giù ti rimetto il cambio. Sono rientrato. Ok Luca, sì, grazie per il microfono, Gianni, sì, sto usando un toccaio in questo momento, però mi dispiace ma vi devo salutare perché è arrivato mio cognato, mia cognata e mio fratello e dunque devo scendere giù al piano di sotto per stare con loro perché giustamente sono venuti a farmi visita, allora bisogna che io. E intanto saluto a Franco a Fablavo, spero di risentirti ancora, tra se sei ancora all'ascolto, ma suppongo di sì, perché tu sei un bravo CB, una persona molto corretta, educata nel senso della frequenza e poi in altro, sicuramente non ci sono dubbi, anzi non ti conosco di persona, però da come parli sono certissimo che sei una persona come si deve. Va bene, io saluto a tutti sicuramente, iniziando da Roberto, ciao Roberto, fatti sentire se passi dalle mie parti, sarai sempre bene accolto da me. Ciao Giampaolo, salutoni, ben sentito, a risentirci. Ciao Luca, ciao Gianni, se sei ancora all'ascolto, suppongo di sì, poi che ti è rimasto. Ti è rimasto, non mi ricordo, nient'altro, non c'è nessun altro. Avanti Giampaolo, per me vi ascolto tutti fino a lì e poi il QRT, vai. Ti auguro buon tutto, buon QRT e spero di risentirci presto. Ok, non so se, se Giampaolo stava scrivendo Ortega, anche lui, quindi lo saluto cordialmente, lo saluto, gli auguro un buon tutto, una buona carica, perché senz'altro mi ha accennato che bisognava preparare il carico batteria. Non so se è così, di nuovo saluto anche a Luca, buonasera, per esempio, non so se si sta spostando su 21, comunque Robert riprendi il microfono tu per i saluti a Giampaolo, avanti Roberto. Sì, sì, no, ho già salutato. Vediamo nel frattempo se è rimasto qualcuno. Allora, abbiamo detto, Giampaolo è andato via. Franco è andato via, anzi mi sono dimenticato di salutarlo. Lo saluto adesso, se per caso è ancora all'ascolto. Poi Giulio, abbiamo detto Giulio, Giampaolo sono andati via e Franco. C'era Luca, che credo si sia spostato. Lo rilanciamo, se c'è ancora, se no riprendi tu Gianni. Luca, avanti. Sì, stavo chiamando a... Ciao Roberto, stavo chiamando a Gianni, ma non c'è. Vabbè, non fa niente, dai, niente. Io sono qua, mi sto prendendo il computer, mi sono messo in linea, ho smontato il portatile, la tastiera sporca, dai, sai com'è. Quando uno ci manda sopra, ci vanno a finire le briciole dentro. Cazzo, la smonto, la pulisco. Comunque, rimango qua in ascolto, se mi chiamate già riprendo. Avanti, a te Gianni. Grazie Luca, grazie. Robe, ieri ho usato il Suzuki 380, usato, dopo tantissimi anni ho fatto un giro con quel Suzuki lì, l'abbiamo messo a punto il Luca Mariani con questi attrezzi che metto su, e gli ho fatto un paio di giri, una bomba. Ciao, l'hai salutato, gli hai mandato i saluti, ti sei ritornato. Glielo ho detto, sì. Quell'affresco che hai visto, te lo puoi fare anche tu, non è nient'altro che una lampadina. È una lampadina che si accende e si collega al carter, il negativo e poi l'altro si mette sulla puntina e fa la luce. Però io me la devo fare, li metterò anche un intermittente, in modo che proprio lampeggi come che si sta arrivando l'elettrico ai civili. No, non ha, poi diciamo, come si chiama, che suona anche, me l'ha fatto vedere, no, alla mano, due volte ci è venuto, e siamo grandi amici con Mario Mariani, e niente, lo prenderò qualche tempo, da una parte la volevo mettere in moto, lo sai, come con la sembrava, non è marmite, una ciminiera, di quanto poi non sono riuscito a smaltire il fumo, un po', perché era ferma da anni. Adesso rimangono ferme, soprattutto i due tempi e così, accumulano. Sì, quella è anche così, soprannominata come la Kawasaki, la paravolante, perché il motore preciso l'indico, il motorio, no? Il cuore della Kawasaki 500, il motore è sempre lo stesso, sì. Quello lo posso anche, se voglio, non l'ho mai toccato, giusto per mantenerla in ordine, lo bene, la moto, lo posso anche portare a 550, ma non la tocco, e non lo tocco, se no perde tutta l'originalità, lo bene. Sì, no, la salta è normale. Mi hanno portato sabato una Willys, una GP Willys, dobbiamo sistemarla, e poi mi hanno fatto vedere una macchina bellissima, non l'avevo mai vista, l'ho vista solo in fotografie, una monoposto tipo Formula Junior, non so se le conosci, degli anni 60, tutta in alluminio, costruita su meccanica del motore della 500 Fiat, quello della, come si chiama, della giardiniera, motore a suglio, non so se la presente. Ma tu vedi quanto è bellina questa cosa, la dovrò fare probabilmente io. Ha detto tienitela bella a conto questa macchina, perché è un pezzo unico. Mi hanno fatto 6 esemplari in tutta Italia. Me lo posso immaginare, io diciamo, vabbè, non è che ci vado sulle macchine, diciamo, mi piacciono, però sono stato sempre appassionato delle motociclette, anche perché se non faccio un po' di macchine, vabbè, ci vorrebbe per tenere macchine un magazzino, non li riprende. Comunque apprezzo molto chi ha queste macchine, chi coltiva la loro curatezza e sì, no, anch'io. Adesso sono appassionato, mi aggiorno quotidianamente. Adesso vedo, l'altro giorno sono andato al mercatino, ho preso un po' di roba, tratto dalle vecchie Declan, di macchine degli anni 70, dove ci sono tutti, non dico gli spaccati, quando compravo una macchina Declan di vendita, dove ci sono tutti gli interni, gli abbinamenti dei colori, le fotografie degli interni, eccetera, eccetera, le prestazioni, le schede tecniche, sono cose carine. E le ho prese, è capitato una ventina, me ne hanno dato di diversi tipi di macchine, non sono macchine vecchissime, però sono sempre cose che vari, poi ti devi fare un recupero, un restauro, e lì c'ha dei riferimenti anche di colori, di tinte, vuol dire quell'anno lì c'era una macchina lì con un interno di quel colore, eccetera, eccetera. Sì, sono quegli anni qui, soprattutto buio, fate a buio, insomma, che fa robe, perché anche se può puntare il tipo, hai capito, no, non era così. E allora no, aspetta che ti faccio vedere che chiudi il pian dell'epoca, hai capito? Tutte queste belle cose, no, sono cose belle, hai capito? A me fa piacere che ci siano pochi copioristi come te, anche di più un po', per esempio, io ho i vecchi CD elettronici, magari qualcuno ce li ha, e tutto lì, vabbè, sono cose così, da, e dicono un pezzo di carta, però ce l'ho, no, non una cosa comprando anche questi, come si chiama, cose riviste, cose antiche, robe, non so se stanno uscendo ancora, esce ancora questa rivista di cose antiche. Non lo so, qualche numero l'ho visto anche io, l'ho intravisto, perché sono anche appassionato, diciamo, tutto quello che riguarda l'epoca, dagli orologi alle vetture, qualunque genere, oggetti d'epoca, qualunque cosa che è d'epoca a me, ma fa sempre piacere averla, o cercare di averla se possibile, con le mie tasche, in base alle disponibilità economiche. No, cosa stavo dicendo? Adesso mi ho fatto perdere il filo. No, a me piace quando, soprattutto quando fai dei recuperi, dei restauri, di documentarmi e cercare di rispettare le foto dell'epoca con tutti i particolari e con tutte le cose che devi mettere, senza modificare, perché molte persone si mettono a fare dei restauri, a raffazzonare, a cercare di adattare, ma non è un restauro, quello è un raffazzonamento. Anche una volta devo comprare una moto per la Claudio, questa volta ho avuto un incidente, mancano, diciamo, il cupolino davanti con la una Honda MSR 125, devo acquistare da questo tizio, però le carene quelle lì sono, guarda, anche il prezzo è ragionevole, però queste carene lo preciclosano la seconda mano. Allora ripropongono tutto, nel senso riproducono tutto e fanno in resina, perché quelle non sono in resina, sono fatte con una plastica particolare, diciamo un po' più, diciamo meno resistente, però dal punto di vista estetico più rifinita, perché la vetroresina c'ha sempre qualche difetto, qualche imperfezione, però vai su internet, se sei pure fortunato, l'NSR non è che ne abbiano fatto poche, per cui potrebbe anche essere abbastanza facile trovare qualcosa. Si può lasciare così perché si sta anche senza carenata, però questa moto era di un mio cugino, l'ha comprata e poi l'aveva rivenduta, dopo pochi mesi, a un ragazzo, quello figlia venendo dall'altro paese, che era una macchina parcheggiata, si era andato sopra, gli aveva rotto solo le carene, poi l'ha venduta a questo ragazzo che c'era sempre tanti anni, non l'ha mai messa a posto. Mio figlio Claudio si era affascinato, la vediamo, vedo se in ordine il telaio, le carene, quella roba non mi interessano, se in ordine il telaio che non è le forchette, tutta la parte meccanica, ho detto ma finito, però capito, le carene se le comprerò più in là, perché la moto è anche di piano stato da carene, ma io la voglio fare bella come era prima. Quelle sono le mie passioni, diciamo, hai capito, meccaniche, e poi non vado da nessuna parte, quando l'ho provata la Suzuki ho fatto, siamo di 200 metri, giro della piazza e chiudo lì, rimessa dentro nel garage. Vabbè, sempre un piacere, ma altrimenti tu lo puoi fare perché devi magari ci sono pochi controlli, se lo faccio qua a Sassari subito ti fermano, intervengono, e se non sei assicurato, bollato e revisionato. No, io non devo andare da nessuna parte, lo sai, capito? via. Sì, sì, ma come si chiama? Un po' più oltre 180 GT, GT Robert. Guarda, ti dico che dava fastidio all'Albert, all'Albert come ripresa lo faceva meno. No, molto poco. Questi affari un po' limitati a livello telaistico, però a livello di prestazione erano anche molto molto pericolose da guidare, perché con le gomme dell'epoca non è che si poteva fare più di tanto, era sproporzionata come moto rispetto ai telai. Sì, c'è un motore, ho poi avuto il collo, l'avevo lato via subito, però me l'avevo regalato il fratello di mia moglie. Comprato da un tipo di passata, era passato in tantissime mani, il 750 Kawasaki tricilindrico a due tempi, era un coso bene, io ne scappi liberi e a questo periodo ne avevo un'altra smontata, vediamo un po' quando gli trammei, quando gli attaccherò non capisci nulla perché era una moto, proprio la prima serie che avevo, e gente, tu sei scemo, ho detto, ti valevo un sacco di soldi, io non l'ho fatta via, temendo che potesse entrare in mani e i miei figli, perché era un altro missile quello. Sì, sono molto due tempi, poi erano rabbiose, diciamo, la reazione era molto rabbiosa, non è come quattro tempi un po' più lineare, quelli come aprivi sparavano subito. Non so se l'hai conosciuta quella che aveva qua, di sotto, Tarzan, l'hai conosciuto tu? Tarzan, non lo so, comunque questa qui la moto, la sua c'era il risorso di Roberto. E mentre i cognati me l'avevano regalato i cugini che erano di sosso, come male la moto è quella, no? Può essere benissimo, non penso che c'erano tantissime di quelle moto tre cilindri che poi erano rumorosissime, facevano male. Giacomino si chiamava il proprietario di quella moto, Giacomo. Noi eravamo Tarzan di soprannome, ha lavorato anche da noi, però non mi ricordo, forse Doro, può essere Doro, Giacomino Doro, adesso non sono sicuro se il cognome sia quello. Poi mi si chiamano Leoni di cognome, sarebbero i cugini di mia moglie. Siamo a te fratelli, ma da temevano e capito. Poi la passata, no, ne avevo una comprata da uno di passata, loro, e l'avevo fatta qui ai fratelli di mia moglie. Poi avevo un sacco di tentazioni, non sono stato lì poi a guardare dietro, ma comunque. I cugini mia moglie è proprio erano di sotto, perché mia moglie era di sotto, perché se manca tantissimi anni da sotto. E niente, Robert, ti dico che era una moto che avevo paura, capito, che rimanesse in casa, poi c'avevo il collo venduto, l'ho preso Suzuki GS350 a Cardano, c'avevo quattro scambler, hai capito, li ho fatti fuori perché dopo abito prima era fitto di moto, la casa mi serviva per andare a abitare, piano piano ho fatto fuori tutto, perché allora non ce l'avevo il garage. Sì, prima nel garage c'era un piccolo negozietto che ci stava mamma e niente, per non farmi entrare la qualche a poco a poco ho venduto tutto e mi ho lasciato le migliori le moto. Ma la scambra ce n'è ancora? La famiglia qua poi da tempo con me, ho dato una Olbia, una ad Alghero, poi ne avevo dato una a questo di Sassari, non so se lo conosci, che è avvocato, Alessandro Santona. Non di nome non mi dice niente. Ok, Alessandro ne ha parecchie, poi ne avevo dato una, come si chiama, ma com'era, di quelle motori. Questo che la Olbia era il migliore, era motore 250, giallo con la rivalenza del fatto che avevo fatto il motore io, ha detto già solo la parola le manca, e ha detto un giorno, ha detto vengo e te la faccio vedere perché l'ho anche cromata e ci tocco non portarmela a farla vedere se non te la prendo, perché ero molto affezionato, l'ho data via e capito buon con le faccia e sono contento che ce l'abbia lui, però non me la faccio vedere dopo che sono qui. All'inizio posso avere un mercatino, cercarla e comprarmi un'altra, no, hai capito, beh, sono molto per la mia gioventù, mi ho lasciato il Marchi 3 e basta, che ce l'ho questo motore. Sì, sono belle moto, poi sono ricercate, sono molto, molto apprezzate perché funzionano bene e affidabili. vabbè, come tutte le cose bisogna starci attento, se inizi a trapassarli i mesi, io dico vanno sempre usati con scrupolo e limitatamente all'uso con cui sono nate, è inutile che ti metti a tirarli magari il collo per avere qualcosa di più e poi spacchi tutto. L'unica cosa che devo cambiare due volte, lo sai cosa lo sei, con tachilometri, e con tachilometri due volte perché le vibrazioni spaccavano le lancette, vibrava troppo. Sì, vabbè, quello è normale, erano a cavo, poi il coso, il traduttore diciamo era un po' piccolino per cui trasmetteva tutte le vibrazioni. Tu e ce l'ho ancora, li ho tenuti, il coso con la dire non lo ripacca, perché c'era adesso uno glielo posso prendere e devo comprare tutti e due gli strumenti, come li ha tutti e due, giri che gli slitti che montavo la mia. E c'è un tachilometri che è rotto, è rotto lo schedio, hai capito che c'è una scatola solo, l'unica che l'altro giorno, e poi c'ho numerosi ricambi, cambi ne ho 3 o 4, capito, c'ho porcellini del cambio, ne sparo da nuovo, cioè, hai capito, un pistone che ho lasciato, ma ti ho lasciato per sempre ci sono marchi 3 il motore, poi, e del resto, hai capito, il motore l'altro è fatto da zero, che è ancora in rodaggio il marchi 3, quindi non la uso mai, l'ho messa in moto l'altro giorno, e sono andato a Claudia a fare un giro, e poi la riportata in garage, in giro, si intende roba da garage, la faccio fare il giro della piazza, la faccio scaldare, qui e poi la riporto, giusto per muovere, capito, non avventurarmi a portarla da nessuna parte, perché mi invitano a fare dei tifosi, vabbè, io ho detto, per portarla così le moto avrei bisogno di un carrello che le metto sotto e allora li pulite per fare molta strada, perché non ho voglia più di prendere freddo alla mia età, perché io ho preso tanto con la moto di freddo, quindi preferisco un domani se avere anche un carrellino per trasportarle, capito? Se no ci rimangono dove sono ferme. Ciao, che colore ce l'hai tu? Come? Che colore è questa moto? Quale moto? I Ducati che stiamo parlando. Rosso C10 a metallizzato. Buona come verniciatura, conservata o è stata riverniciata? No, è conservata la verniciatura, come l'ho comprata e a seconda mano. Era però la verniciatura la sua. No, no, vabbè, meglio così allora, no, sono molto abbastanza ricercato, come dico prima, sono piacevoli da avere, non sono grandi impegni per mantenerle, sono belle, l'unica cosa è tenerle conservate in un posto asciutto dove non ci sia umidità, sono inizia la ruggine di Sicilia, eccetera eccetera. Sì, sono originali, non sono rugginosi, per la marmite originale, hai capito, questa era di un tipo, l'aveva preparata lui proprio, l'aveva fatto il marchi 3 dallo scambler che tra era preciso e ha messo la forcella, perché ne avevo un'altra, aveva avuto un incidente e l'aveva rifatto sul telaio, però le precise identiche erano queste, capito, andava benissimo, capito, è fatta nei minimi particolari, il motore preciso quello dello scambler, però più veloce, capito, nel cambio a bilanciere, cioè, e il colore è quello lì, è il rosso C10, praticamente è fatto così, si dà un colore, già lo sa, insomma, se nel mestiere, e poi si dà il trasparente rosso. Sì, sì. Cosa volevo dire? Quello che ha portato, che ha insegnato a Mariani, lo conosci, quella persona che ha insegnato a Mariani a fare delle svodroniche, le distribuzioni delle svodroniche, è il padre di un amico mio, che lo conosco pure io, non so se lo conosci. So che io ti faceva Luca che a Sassari e Roma lo fai. No vabbè, ma noi stiamo parlando, tu stai parlando successivamente, il primo che ha fatto le Ducati qua in Sardegna era uno di Nuoro, che ha lavorato alla Ducati, parliamo negli anni 50 eccetera eccetera, 50-60, e si è aperto un'officina a Nuoro e di lì ha insegnato a questo tipo che ti sto dicendo io, che il cognome si chiama Podda, che questo Podda poi ha insegnato a Mariani a fare le distribuzioni e poi sono arrivati tutti gli altri dopo. Ma perché stai dicendo? Di nome non lo so come si chiama, lui si chiama Podda di cognome, il figlio conosco si chiama Lello. E se quello, non so come è successo questa roba, questo mi fa anche compare con Mariani, non so come è successo, cosa ha fatto Mariani all'epoca, prima di insegnarlo qui, di interessante di lui, perché erano pochi che le facevano con le moto. Tra parentesi, Mariani è un grandissimo meccanico, è detto da lui che questo, dice, era una persona, mi ha insegnato, non sono tutti le persone che da quei livelli che possono permettersi di dire che ne hanno trovato uno che gli insegni qualche cosa, è difficile, questo su quel tipo di motore era lui che ha insegnato agli altri. Infatti è quello che ha chiuso il motore del 98 che abbiamo noi, perché non ci riusciva, papà, non ci riusciva, si è fermato questo camion una sera era già sull'imbruino, gli ha messo mano questo tipo, alla moto in tempo di mezz'ora l'ha appena messa in moto. Bene, il camionista era, faceva il camionista come lavoro questo qui. E allora c'è lui, papà, ha detto, si è fermato un camion, se ne c'è questo tipo, stava parlando con Mariani dentro, nell'officina, aveva Ducati, c'era, infatti papà aveva lavorato in Ducati, gli ha messo mano, gli ha messo un tempo di mezz'ora, ha detto, si è fatto fare un pennello con benzina, poi di quel giorno le avete messo in mano. Li abbiamo ordinati perché quella multidisco a bagno d'olio era con la frizione, e ha rimontato tutto, ha messo il pezzo su originale perfettamente, un gioiellino. Ma poi un altro stesso, un Benellino, lo stesso me l'ha ricostruito lui, un pezzettino della messa in moto che si spaccava sempre, lui li conosceva a uffa quei motori. Quando uno c'ha esperienza, Mariani sulle moto d'epoca può dire la sua, ce ne sono pochissimi a livello suo di esperienza, perché lui conosceva proprio le moto, ci ha lavorato da bambino, il padre era un grandissimo meccanico, lui ha seguito le orme del padre. All'epoca la moto era stata meglio. Sì, sì, sì, che si conosce. E così è, diciamo, non so, sono cose serie, io ho parecchi motociclisti di vento, ho legge in bike, capito? Mi hanno prestato molto quello che mi ha detto su quella Benigni che ci avesse dentro l'officina. Meglio molte volte tenerle così conservate come sono, che però ci abbiano tutti i pezzi sui, anche se c'è qualche collo di ruine, però la moto che sia tutta quanto originale, molte volte io dico quello. Sì, no, è bello, averle, sarà molto difficile, cioè molto, sempre molto più difficile trovare una moto conservata, cagata a Sassari, 7-3, figurati, no, parlo una moto del 1928, quante ce ne potevano essere a Sassari? 73 moto c'erano immatricolate, fate il conto cosa poteva essere Sassari all'epoca, era Sassari, in tutta la provincia di Sassari, 73 moto, fate il conto, per cui se ne vedi 10 a Sassari, 5 a Tenzio, 3 a Urbia, 2 di lì, era brutto. No, vero, c'è cosa c'ho, il vecchio, come si chiama, opuscolo della scala di Giocaullo, volante d'argento degli anni 50. Sì, no, le ho viste, io tutto quello che trovo di riviste, di cose inerenti a queste cose qua mi metto tutto da parte, poi fotografie, Mariani me ne ha dato qualcuna, amici che mi danno, dove vado, mercatini, alle mostre, eccetera, eccetera, tutto quello che trovo di moto, di documentazione, vado alla macchina fotografica e fotografo tutto in modo da avere anche delle documentazioni storiche, devi fare un restauro, c'è tutto, sono grandissimo appassionato, per quello mi posso vantare di quello, se io faccio del restauro. C'ho molta documentazione perché c'ho tutte, la manovella ce le ho, non dico tutte, ma quasi tutte. Poi motociclismo d'epoca, ruote classiche, legend bike, ma insomma non mi vengono neanche altri nomi, vabbè, a parte quattro ruote, ne ho centinaia di numeri, autogi, c'ho tutta la collezione completa, eccetera, eccetera. Per cui mi posso documentare, della Fiat ti posso dare tutto quello che vuoi, delle restate in poi c'ho tutto, nel senso tutti gli spaccati e così. Poi precedentemente le macchine che sono andate per la maggiore, ce l'ho tutte, Topolino, Palilla, eccetera eccetera, della Guzzi c'ho tutto, della Benelli di spaccati c'ho tutto, di manuali d'officina eccetera eccetera. No, Ducati niente, solo la rivista e basta. Documentazioni manuali di servizio, Ducati non credo di avere niente, almeno a memoria mia non credo di avere niente. Di Benelli sì, ho tutti quanti, tutte le moto, vabbè, a parte le nuove di adesso. Tra l'altro proprio Manani, il volume della Ducati, della Benelli, fino ad arrivare a 6 cilindri, 756, no, 900 sì, era poi 750, 650, dai cinquantini tutte quante, cioè fino agli anni, diciamo fino all'85-86 tutte le moto che ha fatto la Benelli. Perché lui c'aveva un'enciclopedia della motocicletta, Mario c'aveva, però c'era anche il Ducati Marchi 3 c'era. Poi io c'è, come si chiama, il numero del fatto, il catalogo di cambi, c'ho il manuale di officina della Ducati, c'ho tutto di quella roba lì, e soprattutto c'ho l'attrezzatura specifica per fare il motore, capito, c'ho anche gli strumenti di canali carburatori, c'ho tante cose, una pistola stroboscopica addirittura c'ho. Sono rientrato, lo sto ascoltando, no, ma non è per caso hai anche, io ho avuto un modellino piccolo, quello delle ruote piccole. Sì, io ne ho uno nel Tauro, l'ho fatto per mia figlia, vabbè, quello che c'ho io in giro non lo trovi più, è rarissimo, e City Bike, tu hai il Motorella, stai dicendo? Adesso non mi ricordo, Roberto, l'ho regalato, era nuovo, ma l'ho regalato praticamente, mi conviene. La moglie non la vuole, Zappi, ma tu avevi una moto, nuova nuova. E tu avevi, avevo 14 anni, pensato all'epoca. E mi aveva regalato un traghetto nuovo, e se me la guarda, un paio di mesi l'avevo distrutta. Distrutta nel senso che, come me l'aveva data lui, poi ho iniziato a, insomma, graffiarla, sai com'è, no? E poi niente, se l'avevo rotto il motore, sono cose così. Cercando di modificarla, ho fatto la marmitta fatta da me, e quando tu camminava questa volta non era allucinata, era 75 era, ma era una cosa impressionante. Ma tu quella, aspetta un attimino, quella che c'ha il serbatoio piccolino, stai parlando, e poi c'ha il seggiolino dietro la sella. No, il serbatoio piccolino con la sella corta, quello lì c'avevo io. è il Motorella, secondo me è il Motorella. Io invece ho quella che ne hanno lasciata di qualcuna, c'era quella spaziale che era, sembrava la moto da fantascienza quando è uscita, si chiama mini bike, che c'aveva le ruote piccoline però molto larghe, tipo tassellate, tipo la fuoristrada, la sella lunga sollevava la sella e sotto c'è il serbatoio e c'erano le fiancatine in resina, una moto particolare, col stesso motore di quella moto che stai dicendo tu. Vabbè, erano tutti uguali quei motori benedini, era bellina perché era, sembrava una moto da coso, da fuoristrada. Non lo so, non lo ricordo. Ce l'hai tu una piccina? Sì, la mia, proprio fatta, restaurata. Devo fare solo questa fiancatina, l'avevo, l'ho fatta per regalare alla mia figlia, la piccolina, cioè più grande, la piccola ancora. È sempre lì, devo fare solo, è già pronta, già verniciata, tutta finita, devo fare solo queste fiancatine che c'erano delle lesioni, che è una resina particolare, vuole ricostruita, però è molto molto bella. E poi mi aveva regalato una persona che ha nominato poco fa, cosa faceva l'assistenza della Piaggio, Zona del Monte, mi ha regalato, una moto d'epoca, la chiamiamo una moto d'epoca, una moto anni 70, non so se te lo ricordi, il Califone, quelle a tubo, quelle moto con le ruote grandi a tubo. Sì, saluta, la vostra abita a fianco a me, Giuseppe, non abitava qua ovviamente, quando ero piccolo io, però sono di te parlando di, quando ho il padre di un mio amico, ce l'abita al monte, lui, ha gli occhiali, confermi. Sì, adesso si arriva, no, questa è l'officina, adesso ha chiuso, mi ha detto proprio Giulio poco fa, vicino a lui, più avanti di Giulio. Ah, lo sai parlando di questo qua, la buona Piacero? No, non c'entra niente, non facciamo noi perché non mi va, perché siamo mezzo imparentati, non proprio con lui, mio cognato ha lo stesso nome e cognome suo, ed è lo zio quello lì. E mi ha detto questo Califone è originale ancora, verde metallizzato, tutto conservato, con la manita a spilla, lei con ogni roba di rumore che va. Comunque con Benelli è allucinante, camminavo, guarda, la cosa non ci diceva, vabbè, poi mio amico c'era un Garelli sempre di quella, di quella grandezza lì, era 75, ma era una cosa, guarda, la paura, se non camminava, ma mica originale, sì, il carburatore normale, era, una scheggia era, siamo. Ma tu questa con le cose piccole ce l'ho avuta pure io, l'ho tenuta pochissimo, poi l'avevo regalata a mia moglie quando ci siamo conosciuti, abbiamo tenuta perché non se ne va a nuda e poi l'ho veduta a un suo vicino di casa. E poi io c'avevo il Benelli, aspetta come si chiamava, il Benelli, sempre, però questo c'aveva il cilindro verticale, non orizzontale, era una bomba. A Sassari, non per vantarmi, quando facevamo le gare venivano da tutte le parti, noi avevamo cambiato i rapporti, non è solo modificare, c'era il motore preparato e gli abbiamo cambiato i rapporti, ma il mitraspillo e il carburatore, era una cosa da paura, l'abbiamo cronometrato all'epoca, tu adesso ti metterai a ridere, però è arrivata a 105 km orari quella moto lì, sei presente, di moto 50, era 50 la mia, non era modificata di cilindrata, era soltanto cambiati i rapporti, avevamo allungato i rapporti, non finiva mai di prendere i giri, perché tutte le altre moto noi andavamo a fare le gare alla cavallazione oppure a Monte Bianchino dalla discesa e vedevi che arrivava più, c'era stato cronometrato, partivamo il cronometro e misuravamo le velocità. Noi con la moto mia non ha mai perso giri, cioè non andava fuori giri, perché al contrario degli altri che tutti lasciavano le rapporti originali, arriva a un certo punto andava fuori giri la moto, quella la mia più discesa c'era più camminava, nessuno è riuscito a battermi con quella moto. E poi c'era un'altra cazza, io non so dove facevo i Vespuni, cioè i Vespuni 125, 150, ne manco di video, ma proprio lì stavo vicino, andavo senza neanche manetta, a 200 in discesa lo passavo, e facevano 105 il Vespone. E poi c'era un amico mio, non so se l'hai conosciuto, lui c'era il ciao più veloce di Sassari, l'aveva preparato Mariani, gli aveva messo questi rapporti lunghi, modificato il motore, allucinato, quello lì aveva battuto il Benelli 125 in velocità, salita a Monte Bianchino, non so se l'hai conosciuto tu, a Paoletto Lacana, quello c'era il ciao più veloce, il sì più veloce di Sassari. No. Allora, ne aveva fatto uno, di sì, un ragazzo, sai che è nipote di Mario Mariani, aveva fatto questo sì, si chiama Gianni Serrini lui, questo sì, dunque alimentazione, cioè cattecolini, 75 di cilindrata, insomma, una cosa avvicinata, la sua non tu camminava, questo ragazzo come stai dicendo tu, però qua stiamo parlando di cose diverse. Anche mio fratello ce l'aveva il CIDO più alimentazione, addirittura lui è stato il primo a sapere che ha avuto un raffreddamento al liquido, il CIDO più alimentazione, questi simonini, il raffreddamento al liquido che si crepavano per la fine, realmente era spinto, però non si è riuscito mai nessuno ad arrivare alla velocità che è arrivata col ciao, quel CIDO, perché era veramente il rapporto, cioè non è tanto dire tirare fuori i cavalli, però se tu i cavalli non riesci a esprimerli perché arrivi ad andare fuori giri il motore, lì aveva messo questi rapportini, hai visto, c'hanno le pulegge, il ciao e sì, c'avevano le pulegge, e aveva messo questa puleggia, era stata 5 cm di diametro, modificati i variatori, tutto quanto, era una cosa, sembrava che il motore tu non lo sentivi, faceva un sibilo, faceva ma era tipo un'ape, era un'ape come insetto, una vespa, una cosa luce, sentivi questo fischio da lontano e bastava un rato. Adesso magari ci sono questi scooter 50 che poi diventano i pezzi 150 che fanno anche 200 all'ora, però noi stiamo parlando di moto 50, non moto con pezzi modificati. Sì, si va che questa qua faceva così, un tipo di lato, ma tu dici che questa moto allucinante, non ci spenderei mai tanti soldi così, ma qua lavorava al mar, ci aveva parlato anche bene, aveva fatto anche bianco, nuovo nuovo si era, nuovo, fiammante, poi mano a mano l'aveva crepato la belpa, c'era tutto, tutto, la puleggia, quella da lungo, poi c'era la marmitta, la le uvinci, la pulina, adesso non mi ricordo, guarda, allucinante, roba, una volta abbiamo detto, faccio la provare, cioè, l'ha provata a mettere come normale, però a noi non ce la faceva provare, manco musica. Guarda, di sì, no, per dire, non ce l'ho avuto io personalmente, ce l'abbiamo ancora così comunque, è ritornato normale, ce l'aveva mio fratello si poteva vantare che ha provato tutti i pizzi, dai Simonini, da Ganello, DR, Pinasco, tutti i possibili e immaginabili che uscivano, perché lui ogni settimana giambava motore, cioè che ne faceva totalmente tanto, poi un giorno che era riuscito a trovare con i pezzi coso, con i pezzi Pinasco, che erano quelli con i cilindri cromati eccetera eccetera, che erano quelli che ti tiravano qualche cavallo in più di potenza, perfetta la moto, perché lì c'avevi sempre qualche problemino per dire di tenuta del minimo, che la moto andava un po' fuori giro, aveva riuscito a trovare tutte le carburazioni perfette, che la chiamata, ci aveva perso questi della Simonini doppia alimentazione con raffreddamento al liquido, poi ne è uscito con l'altro, ne ha cambiato talmente tante di più, alla fine mi ha detto fai una cosa, a partire da questa moto, per i soldi che aveva speso ogni settimana, era la beffa di tutto, ogni settimana c'era un coso nuovo di pezzi per vedere le prestazioni, quelli più affidabili erano i pezzi di R, che c'erano un po' meno potenza, quello erano quelli più affidabili, quelli Pinasco erano quelli che andavano più di tutti, Simonini era tutto potenza però velocità niente, e poi c'erano da Ganello, a volte c'erano una via di mezzo, però ne abbiamo visto, ma c'erano soddisfazioni, allora fare motture, adesso tocchi la centralina, fai mappature, ti metti il variatore diverso eccetera eccetera e subito c'hai 150 km/h, ma non c'è più gusto lavorare, prima invece si lavorava dentro il carter, tutti i pistoni alleggeriti, i bielli alleggeriti, vai dare bocche di roba, Mariani era un maestro su quelle cose lì. Ok, stiamo monopolizzando, avanti Capri e racconta la tua. Come sta facendo Luca della motorella? Anche io l'ho regalato la motorella. Mio cugino invece c'ha l'altro Benini, che forse mi capisce al volo, non è quello con cilindro orizzontale, è sentito la motorella appena più grande e c'ha 5 marce già. Ho portato da Torino, lui ha toccato i tappati e gli avevo messo in funzione, c'era ancora, hai capito di quale bene mi sto parlando, Lope? Allora, possono essere due, adesso mi sono ricordato il nome della moto io che avevo Benelli, che lo facevano anche a tre marce, a me era l'acceleratore, l'export, esisteva a tre marce e acceleratore, quello che stai dicendo tu a cinque marce era il Magnum, che esisteva a tre marce, che c'era lo stesso motore dell'export, a cinque marce e a tre marce, cioè era una moto molto bellina, tubolare, però bassa, con le ruote più piccole di quel califone che sto dicendo, era il sogno mio della moto mia, mi piaceva troppo quella moto, perché era molto sportiva, c'era tubolare, sembrava tipo una moto cross piccolina. Le ruote piccole, però piccole per quelle grandi di larghezza, e c'era ancora, c'era il rosso metallizzato, e stavo parlando la tappia che poi in mezzo ai piedi, e l'avevo la tappia un ragazzo una volta, allora poi c'avevo anche una fretta che quella, e li hanno tutto molto rosso. E delle moto, io ho capito già la pelle che stai dicendo tu qual era questo. Uno di usi che era bello, aveva cambiato il carburatore, se ciò. Andava che una cosa, questo bene dei Magnum che sto dicendo, che sta dicendo tu chi ce l'ha? Mio cugino, quello che sta facendo. Ah, te sta vivendo, non ne frega niente. No, non ne frega nulla, ce l'ha ancora l'unico già, rimando perché l'ho preciso, tutto, che uno interessato. Ce l'ha perché se lo vedo appunto io, non so se lo prende, ma se lo si diploma ancora lei lo prende. No, così, siccome la moto mi piaceva, a me piaceva più il 3 marce del 5 marce, perché c'era il cambio sul manubrio, il 3 marce, però anche il 5 marce, la differenza tra il 3 e il 5 marce, allora il 3 marce c'era il cilindro rotondo, mentre il 5 marce era squadrato, lui se c'è il 5 marce c'è il cilindro squadrato, un po' più voluminoso rispetto al 3 marce. Sì, bene allestato, bene allestato, che posso dire, Robe, che in quella moto, perché io ci ho dei motociclismo lento, faccio dei circuiti, che come si chiama, ci sta anche là il motore del 125 che è 3 kg elettrico. Sì, infatti come forma sta dicendo bene, assomiglia molto a 125 della Benelli in versione ridotta, quello era un 50, però come derivante probabilmente di lì hanno cambiato, secondo me l'avversaggio è la corsa per farlo 125, perché sono molto molto simili i motori di quelle moto, tra il Magnum, se stiamo parlando del Magnum che risulta tubolare, e il motore, il telaio, e c'è un'unica sella mazzottina come moto, non tanto alto, non ha le ruote grandi, sono un po' molto molto grosse, tante cazzacchettate grosse, c'è il cerchio in lega. Sì, c'è quella, cambio bilanciere, c'è quella lì, già lo vede. E noi, dopo la storia del 125 è quello, senz'altro cambierà la corsa e l'allesaglio. Però il blocco è quello perché io già avevo il servizio di un motociclismo lento fra del 125 e di tutta la serie di queste moto, mi sembra che c'è anche l'Esport. E niente, il blocco era quello, e senz'altro si poteva cambiando l'altro, e come si chiama, si poteva fare il 125, oppure tutto il moto ventiero del 125 sta nel maio, quello si può scommettere. Sì, vari sì. Ma poi va solo a livello di curiosità, senza impegno, di lì. Cosa ne vuoi? Naturalmente che non fare una cifra esagerata. Se è una cifra bassa, non è che mi serve, però è sempre una cosa carina che mi è sempre piaciuto, prova un pochettino a vedere, perché mai uno sente, dice mi ho trovato il pollo, dice ti spara una cifra. No, neanche a parlare, se spara una cifra alta neanche a parlare, però se è una cifra limitata, vari ci posso anche pensare. Intanto mio cugino, c'è un figlio solo, hai capito, del maresciallo dei carabinieri, mio nipote, e niente, la moglie è morta, e hai capito, cioè, non lo so, non lo fa neanche più usare, io l'avevo messa a punto, non lo stava più usando, lui ha lavorato, prima lavorava alla Fiat, lavorava. Alla Fiat? Non lo conosco sicuramente, come si chiama il cognome? Dai, ma lavorava a Torino. Ah, no, qua a Sassari. Sono a Torino, ho lavorato alla Fiat, era, e poi è morta la moglie, anche mia cugina, erano imparentati, erano cugini loro. E niente, poi lui, però stare solo lì, si era congedato, è giovane, ha 62 anni, e se ne è venuto qui, ha comprato questa attività di tabacco, edicola, e un bel negozietto, e così, che vive solo, c'è la madre che è capito, e niente, è stato bene il figlio, e così non per niente, di c'è la moto, però no, non ti solide, né ce la vendo se non la vende. No, solo a livello di curiosità, poi naturalmente ognuno poi fa e sarà affezionato. Guarda che non siano delle cose esagerate, mi hanno fatto vedere una moto da vendere, che le ho riso in faccia quando mi ha detto il prezzo, ho detto ma stai scherzando, un alpino era la moto, del conducente, era un ammasso di Mondetta, di ruggine, di uno di Ursulo, ma la cosa, tu c'hai presente, è una moto tutta buttata in una campagna, tutta arrugginita, che neanche, non si sa neanche se si gira, se girava il motore, tutta arrugginosa, e la moto era portata a 500 euro sul motociclismo d'epoca, lui ne voleva 750 euro. Ci sono quelli robe che vogliono arrappare, se trovano il pollo, ma non è così. Comunque di quelle moto adesso, non posso dirne una, Aussi ce ne devono essere tantissime, di quelle belline sia Esport, perché c'era questo tipo all'epoca che aveva in concessione un belline di Aussi e vedeva queste moto, stiamo parlando del 70. tutti i tipi di cose per i lì. A Sassari chi le vendeva era la Opel, la SAE si chiamava, no SAE, Società Turritana Auto Ester, era la SAE che vendeva, e poi le aveva prese Biosa, Leonardo Biosa, non so se lo conosci. Sì, certo, Biosa. Praticamente la Opel, ma era per caso lo prendi a Giorgio Astori, confermi? Sì, sì, sì, confermo. Chi era? Qualcuno che stava parlando? Luca, tu sei? No, no, niente, sono vecchio del 74, praticamente dell'anno mio. Non curando io. Figurati. No, io la prima moto che ho avuto, dopo tante peripezie, perché mio padre non neanche a parlare, avevo 14 anni, la Merelli Export, acceleratore, colore verde, pisello e bianca, con la moto che abbiamo messo, che poi è stata modificata, che era da paura, ma ne abbiamo fatto tutti i colori. Addirittura con la moto, siccome Milano se ne dava, ma sulla benzina, eravamo tutti i giorni, mattina e sera in moto, mattina, quando non eravamo in ufficio naturalmente, però fine settimana, sabato e domenica eravamo mattina e sera in giro in moto da tutte le parti, e ci davamo un tanto per la benzina, ma non bastava mai la benzina, l'abbiamo fatta andare alla cettone, ad usare. Invece io quando sono arrivato dalla miscela, dalla mentina, mi chiamavo il distributore, no? Con 1000 lire in mano, mi arrivavo, ma scusa, lei ci faccia 1000 lire di riserva, ma non ce l'ha porrottone, ci faccia un riparo, mia madre, ci mi sgria, bomba, e 1000 quello, mi va di bomba, era gratis, signori. No, ma noi mettevamo l'acetone, però l'acetone siccome è molto rispetto alla benzina è poco lubrificato, non c'ha gli additivi, per cui alla fine per aggrippato questa moto dovevamo mettergli l'olio di più, ma aumentare la percentuale dell'olio. Noi avevamo fusti da 200 litri perché in officina di diluente lo usavi come solvente per pulire, e mettevamo di diluente alla nitro e andavamo in giro per il distributore perché non c'avevamo neanche l'olio a cercare le lattine dell'olio avanzate per fare la miscela. Guarda, una cosa da allucinare, se ci pensi adesso. Quella è copiato davvero qui a come si chiama, si chiama un cantino per fare la miscela. Sì, io facevo così, no, però quando scivolo per i soldi che avevo, lo sai cos'è il tutto? Quando scivolo la domenica avevo un altro biloncino di benzina, perché mi sono fatto io non contenevo manco 3 litri, quella che avevo, poi che avevo un biloncino, i soldi che li avevo, e quindi non c'erano gli automatici andare a rifornire. Ma tu forse Luca non li ha conosciuti, quando c'era la fine della miscela, quelli con la leva, te ricordi Luca che c'erano due cilindri in vetro, uno per l'olio e l'altro per benzina, pompavi e poi mettevi, si miscelava l'olio. Sì, sì, me lo ricordo, vero, beh, poi sarà sparito, allora, parlo un po' di conti, una quindicina d'anni fa sicuramente, qua qualcosina in più anche. Brecchi? Sì, che avanti. Sono Gianni, stavo già perso il microfono, ma come sta andando? Boh, già sembri, no, la radio è chiara, però sembra che sei dentro una camera mortuaria, cos'è? È una stanza strana. Non è una stanza strana, sono in una camera. Diciamo che non è manco vuota, è piena. Ma è forte già, vabbè. Come va? Non è forte già. Raga, ma rumore sottofondo ce ne sono perché stiamo facendo un collegamento. Negativo, non me la va in radio, forse dovete ridurre un po' di amplificazione. È da lontano così? Vai, fai passaggio. Guarda, parlando da lontano così è un braccio. Vabbè, tu la senti alta, va bene per te. È un po' amplificata eccessivamente secondo me già. Va bene, io saluto tutti i commenti, non vorrei fare male educato, buonasera a tutti. Ehi, ciao già. No, e così è comunque Roberto. No, io devo fare una cosa usato negativo. Sempre benzina, una volta è stata benzina. E mi è andata bene. E poi, sai com'è, poi i pezzi si rovinano. Con Benelli era nuovo, ma nuovo, guarda, fiammante. Quindi nuovo, tutto riverniciato, era veramente come nuove, freni perfetti. Era perfetta la moto, era nuova. Infatti mi ha detto questo tipo, guarda, mi dispiace male, veramente, la mia moglie non lo vuole più. Perché mi ha cambiato casa e questa volta l'ha messa praticamente dentro casa. Perché fuori non si porta la tele, la rubavano. Allora, preferito regalarla a me. Ah, mi è durata, boh, preso cura. Non mi sfrutta in poco tempo, dai. non lo so, no, era quella moto, era uno che si rivede a 20 km impennando a una ruota, perché era piccolina, non aveva problemi che ti capotava. Poi scusa Gianni Capri, tu mi hai avuto la Giulietta pure. Capri. Abbastanza posso di un altro partner, tengo a lei, eccola. Ok, non te lo sai che molto ciocco in garage, è stata comprata nell'80, c'ho un Malaguzzi Fifi a 4 marce. Sì, sì, lo conosco lo stesso, quelli lo stesso tubolari. C'è un motore, cos'è, a Franco Morini o Vedanelli? Aspetta, ma guardate, c'è il fit di Gianni, veramente. Sì, di Sapo era. Sapo, quella lì era la comprata per passare quando faceva i controlli nella linea per tutti aria, per non scassare la moto, c'è cioè, la moto, non fa di spacca, no, l'ho comprato. C'è sempre la Fiat Pecco, c'è cioè, a 4 marce a pedale. Il primo Fifi è nera, con le ruote in lega, freno a disco da Franzi, c'è a 4 marce, un bel cucinino e testata, sembra un 125 il motore, quella moto di giù. Sì, sì, mi ricordo. Allora, io ho avuto la prima moto il Benelli, era un sogno per me, mamma mia, non mi andavo niente in giro contro me, mi sa volta, e mi vorrebbe qua, sai come la prima moto, sempre in giro. Poi da quella moto lì sono passato a un sì, dopo un sì ho avuto il Ciao, poi ho avuto il Garelli, Garelli con le ruote grandi, a marcia a mano, poi ho avuto regalato sempre da una ragazza che era il fratello, non so perché, non so, mi cugino, praticamente la stessa volta l'ha regalata a me il 50 a marce, marcia a pedale, no, vai, che in giro di un mese l'ho spaccato, mi ha spaccato il motore, poi ho avuto, vabbè, moto così vecchia, Garelli, Benelli, questo 50 abbiamo detto, l'altra che moto era, la non mi ricordo, non mi ricordo, comunque moto che ha, vabbè, di queste che ho avuto a poche, poi vabbè ho avuto Zip, tanti, Zip, niente, moto nuove alle volte mai, mai, ma non si fa tempo, ecco, però molto sempre messo a posto, Gianni, capito, riverniciate, come nuovo, freni nuovi, la rifacevo, insomma, cose così, ma molto nuove mai, non la potevo permettere. Ok, scusa, Roberto, questi cose ci siamo messi stasera a parlare, io infatti non mi trattengo molto perché lo sto a scaldare un po' la cena, come sta diceva Roberto, siamo soli già da 3 giorni perché non ce la 50 quindi, ma già ci stiamo trattando bene, Roberto, a base di gamberoni oggi, e mia sorella te vedo che non ci avevamo fatto granché, mi ha mandato a tanto al forno e agnello per stanotte, ma già mi sto trattando bene, lo becco, Claudio. Guarda che ti ho visto quando è 4 giorni fa o 5 giorni fa, poi ti peso. Ok, no, non so mangiare, mi abbiamo strappato adesso così, questi 9 dove mi può fare delle robe, devo perdere i chili, devo mettermi in testa, guarda, di camminare per buttarmi giù i chili, e non neanche, perché non faccio movimenti, io lavoro seduto, hai capito, non faccio movimento. Domenico, ti rimetto il cambio, scusa di questo ping pong, perché l'argomento era... La prima era piacevole, dico, che stavo parlando, va di Domenico. Sul calcio è brutto che c'è la marmita a spillo che l'hanno ampliata, diciamo, l'hanno... cosa che è brutta da vedersi. Infatti trovando la manetta sua originale con le appadella gliela metto. Tu hai avuto, sto dicendo, Capri, la Giulietta della Malaguti, che c'era il motore in arredi così, che poi la facevano anche con motore Franco Morini. Allora vabbè, Franco Morini era il motore, Gino Massi, Franco Morini, lo sai che è da tanto che ancora il libertino suo che il coso di manutenzione, quella volta l'ha fatta anche io con la maniera di truccare, fare, pur che vuoi al gruppo, perché poi non mi dava la pesca, capito, lì veniva bene essere in due, poi ero usciti per il finasco, non di nascosto me l'aveva fatta truccare. Sei attento, ho comprato il pezzettinasco, 15 piattine, compravano il 19 e la marmita non lo lavorava, era Gladio, mi chiamo, Gladio, la struttura Gladio, anche se lavorava lì alla poveriera, e la marmita c'era quella SS, tutta cromata, proprio adesso non si trovano più quelle marmite perché la stavo cercando, io l'avevo regalata anche quella lì. Però quella lì subito dopo l'avevo tagliata con seghetto, ruotata e fatta saltare a cannello per fare un rumore caratteristico della vespa. Però diciamo che niente, la Giulietta l'avevo buttata via appunto perché era tutto manomesso il motore e poi della vespa che piaceva ancora la vespa l'ho passato alla Ducati. Tutto lì, ti rimetto il cambio, vabbè, a te ancora. Sì, no, sono ben sempre, vai a raccontare ai ragazzi di Udi che sono tutti viziati, che hanno 14 anni subito li prendono lo scooter, bello, ultima generazione, 16 anni minimo 125, se non li comprano con le macchinette a 4 ruote, a 18 anni subito la macchina, chi mi vedeva di queste cose? Non esistevano ai tempi nostri, eravamo tutti, tre dovevi sudare le cose, quel benellino che avevo con l'export per me era il Kawasaki 30.000, pertamente ero contento quando ce l'aveva comprato. Vedete il primo vizioso subito con la Vespa, con tutte le marmite Pinasco, eccetera, eccetera. Io Vespa non ho mai avuto, però l'ho sempre desiderata, però mi sono sempre accontentato. Grazie mille, Roberti, scusate Luca e Domenico, ma c'è la marmita dove la puoi trovare di quella moto, Roberti? In Viale Dante c'è un signore, quello che aggiustava i motocarri e vendeva quei motocarri prima. Lui c'ha un sacco di difese di quelle moto, di California, perché ha volato pezzi per i fittiti, c'ha un sacco di ricambi nel retro bottega, magari c'ha la marmita di quella moto. Sì, sì, già ho capito come sta dicendo, quello c'è anche roba un po' di moto anni 70, sì, sì, già lo conosco quel signore. E poi io, cioè, vabbè, vi ho detto quel mondialino degli anni 60, quello è un pezzo spettacolare, bello, Mondial Super Sport 50, è bellissimo, quello l'ho restaurato a regola d'arte. E poi c'ho una moto del 53, un cinquantino a tre marce, un Olmo, che quella è una moto adesso molto rara, su internet non ho trovato niente, mi ha trovato Giovanni Tola, quello che fa restauri, mi ha dato una documentazione, mi ha fatto vedere delle foto d'epoca, perché lo stesso è una moto molto molto rara, quella lì la dovrò sistemare quando ci avrò tempo. Però, e poi c'ho quel Califone, un paio di Ciao, e quella moto della piccolina della Benelli, quella motoretta piccolina, e cosa c'ho poi? Sì, ah, c'è sì, dico, l'ho lasciata mia fratella e basta. E poi mi hanno lasciato la moto in officina, ho avuto il corsaro della Morini, 125. Yeah. Quella lì c'hai anche. Quella me l'ha lasciata un amico, come si chiama, senza serbatoio, hanno rubato il serbatoio. Sì, quella è una bella moto, ma non la vedo per quella, no? Ma te l'ho fatta vedere, è possibile che te l'abbia fatta vedere? No, non l'ho vista, ma la prendi quella? No, se ti interessa la possiamo vedere, dai. Quella c'ha di bello, lo sai la cosa più bella che c'è, il contachilometri al contrario. Contagiri e contachilometri funzionano nel senso antiorario. L'hai visti tu? Non me ne ricordo, Robert, ma prendendola che prezzo potrebbe valersi? Non lo so, non ci ho neanche pensato, già ti faccio sapere eventualmente, se ti interessa, se vedete manca il serbatoio, comunque si trovano con le moto lì, è completa, mi manca soltanto il serbatoio. Ok, se intorno a che cifra, dico, io mi confronto. Non lo so, ci devo parlare poi con questa persona qua, siccome questa moto me l'ha lasciata, gli ho detto porta, no, tieni, la porta, cioè dovrei parlare prima con lui, cosa ne vorrebbe lui, e poi ti faccio sapere eventualmente, perché ho detto da parecchio, lui me l'aveva lasciata 2 mesi, e ho detto tieni dila, però non mi piace dare una cosa che non è mia ufficialmente, dai, perché il libretto ce l'ha ancora lui di questo. Ok, Domenico, dove sei? Qua Bivio di Alghero sono, da Bivio di Alghero ce l'ha 131. Vabbè, io c'ho uno zigolo in vendita. Cosa hai detto, dov'è? Io c'ho uno zigolo in vendita, se ti interessa. Uno zigolo? Aspetta, me l'hanno fatto vedere uno, ma com'è, in che condizioni è il tuo? Marciante, marciante, è un altro in omaggio a pensare i cambi del documento. Quanto ne vuoi? No, non è che interessa a me, però posso chiedere, quanto lo stai vendendo? No, io non ce devo guadagnare, è un favore che faccio a un amico mio che se ne vuole disfare, carico. Se ne vuole disfare, non è una moto che piace a lui, gli hanno dato quando ha comprato altra roba e mi sembra che erano sui 300, 350 euro. Comunque la moto è marciante. Documenti regolari. Documenti di quella che sta vendendo un marciante sono regolari. Ti faccio sapere, dai, tanto già ci sentiamo qua. Perché sono amici che accettano quel tipo di moto, ti faccio sapere, metto sui 350 euro ne vuoi. Faccio così, dai, mi ricordo così più o meno. Che l'avevo proposto anche a un altro, solo che non è questo periodo, non c'è soldi. Carito, e allora. Ti faccio sapere quanto prima, dai. Ok, avanti Capri. Sì. Ui, Robè, scusa, cos'è cuore? Dove ci aveva, oltre alla Vespa, Robè? Non so se te la ricordi, un Avertino a quattro piedi, che camminava un bene, quasi a 90 all'ora camminava, senza avervi fatto nulla. Che moto era? Non ho capito, scusa. Com'era? Ma non era lo scooter, perché la clave aveva fatto anche uno scooterino. No, si sarà la verba 100. Non ce l'ho presente, 48 di cilindrata. Sì, e poi quella l'ha venduta, quella è stata bella per lei. Non ne ho mai trovato più un'altra ad acquistare. Una bella moto era, e così. Adesso c'ho queste, io sono rimaste queste. Luca, riprendi. No, avevo chiesto a Domenico che tipo di moto è quella che sta vendendo. Guzzi, Guzzi, cosa è Guzzi? Ah, la moto Guzzi, ho capito, capito. Gappa. Ti ricordi, non so, Roberto, ma faccio di sì, il ciclone, della Garilli? A Puglia, ho capito. Cazzo, mi voglio mettere la piedi, Stefano, mi sa, tu camminava. Beh, mi hanno rubato, ce la dopo, roba. Perché c'era un bel po' di quella notte in qua, Sassari. L'hanno rubata da... lì, da vendata di casa. Era fatta di Sassari. L'hanno rubata un tipo di latte dolce. L'hanno ritrovata, l'aveva, adesso la faccio qua. E l'ho fatto che l'avevo venduta a lui. Mi ci fatto un rada, Ma camminava che era una bellezza. Poi camminava un bel. Cioè, va, pezzi, ma mica è caduto, Sì, ma poi all'epoca erano quelle moto lì, c'era il limite di 40 km, adesso l'hanno portata a 45, non potevi superare un cavallo e mezzo di potenza, adesso ne puoi avere 3 cavalli e mezzo di 50, era tutta un'altra musica il motore, era una soddisfazione toccare, modificare lo scarico, mettere il carburatore più grande, eccetera, eccetera, cioè c'avevi soddisfazioni per cavarne, per dire, a 40 allora la facevi camminare a 80, 90, anche a 100. Stavo dicendo Capri, io ho anche un telaio, è stupido, che quando ero piccolino ho dato via il motore, non so se l'hai conosciuto tu, il cucciolo della Ducati. Sì che l'ho conosciuto. Quello era un mio sogno averlo, non dico, la moto lì, me l'aveva proposto, siccome lo facevano, quella era una moto quattro tempi, 48 di cilindrata, e lo facevano anche il 75, la Ducati, ce l'avevo, non so se l'hai conosciuto tu, a Tullio Mura, che c'aveva un garage pieno di moto d'epoca, di tutti i generi, ma moto anche di valori di migliaia di euro. Detto, se me le tieni un paio di mesi nel tuo locale, siccome lo stavamo costruendo dalla zona dove c'era questo garage, non sapevo dove mettere, te ne scegli una di quelle che volevi, poi alla fine mio padre, oh, ne voglio, non ne voglio, lui addirittura è durato un mese, l'avrei dovuto tenere solo un mese, perché avrebbe detto, chissà quanto te le tieni, qua te le tieni 2-3 anni e ti occupa la squadra, alla fine abbiamo rinunciato. E invece un mese è soltanto, ha trovato uno, un mese gli ha regalato una moto bella. Sai, Robè, che io quel motore ce l'avevo, tanto tempo fa e l'ho dato via. Il motore del Ducati 65 era precedentico, l'ho dato via a un mercantino perché facevo i mercantini o il caro, ce l'avevo. E ce l'ha salvato solo il motore perché il telaio, questa volta l'ho stata tenuta appassionata, però il motore girava ancora, l'ho dato via a un caro e ce ne sono di quelle motorie. Lo so, però te ne fanno pagare un sacco di soldi, e ho visto la Torre Grande dove facevano i mercatini, diciamo ho visto un bello, non so se te lo ricordi, della Bianchi, l'Aquilotto. Ehi, ma a me non mi piace anche Gianni più rumbo, vabbè. Sono uno dei tre che ho partecipato al primo mercatino, perché l'anno prima l'abbiamo fatto a Sola Russa, e poi l'abbiamo fatto lì a Torre Grande, sono numerosi amici lì. No, ci andavo tutti gli anni, io l'anno scorso non so neanche se l'abbiamo fatto, non ci sono andato, ma tutti gli altri anni ci andavo. Scusate, mi ha chiesto qualcosa a Luca, Luca cosa hai detto? No, dico, c'è anche Gianni Operum in frequenza. No, è andato via già. Ascoltate, già mi piace ascoltare. Ah sì, sì, già pensavo te ne era andato, figurati, scusami. Ok, no, stiamo parlando di vecchi motorini e cose del genere. Aspetta, vediamo Domenico, che lui era più lontano nel movimento, dove è arrivato. Ci sei Domenico? Domenico! Beh, ci ho sentito, ho fatto il campanello un attimino, se non riprendo, mi sento che si passa un grazie, avrei capito chi è. Anche io un paio di minuti che mi hanno già mezzo chiamato, per cui devo andare a campo base. Ok, riprendi, aspetta, un'altra chiamata a Domenico e poi vediamo. Vai Gianni. Capo, io ho avuto il Gogo, che tu forse non hai conosciuto, la minimoto, Gogo. Di nome no, aspetta un attimo, come l'ha fatto? Ma tipo il bene di motore sta dicendo? Massa rimaneva una minimoto era, lasciava il serbatoio piccolo, ma camminava che cosa va, c'era la Marvita Spiro camminava, quella l'avevo presa a seconda mano, poi ha avuto il sì, la Vespa e il cavallero regolarità a casa 6 marce, poi va bene, l'ultima moto che ho avuto, il Kinko, l'SR, SR50, prima del Kinko, poi ho preso il Kinko, poi il Suzuki 150, adesso c'è il 400. Di tutte le moto che hai nominato, la più bella di tutti e che non ne vedi più in giro, il cavallo della regolarità a casa era il massimo che potesse desiderare un ragazzino dell'epoca. Infatti non camminava, col carburatore a 22, che cazzo camminava questa moto? Era troppo bella, e vederne adesso una sola ne ho visto in un mercatino originale nel senso mai immatricolata, era spettacolare, però ne volevano una cifra bella, senza essere mai usata, c'era ancora l'adesivo quando compri la moto attaccata sul serbatoio. Aveva le marce corte, dove stava sempre cambiando, però quando andavi a fare cross andavamo alla pinetta vicino a casa, vicino all'agraria, lì non so se vanno ancora, ma prima si andava lì a saltare, a roba di divertimento. Allora non è gunisci tu il campo delle cornacchie, il campo di gara è il campo delle cornacchie, a me dillo a Marco Scolto e a tutti quelli cosiddetti crossisti bravi. E come se l'ho conosciuto, ci andavo anche, lo so di conoscere, io l'ho conosciuto, ci andavo insieme a Walter Filippo, lo stesso che era un mio compagno di scuola, c'aveva lo stesso il cavallero, e quello camminava ancora più del mio. Sì, no, il cavallero era troppo bello. E regolarità a casa parliamo, gli altri un po' di meno, ma regolarità a casa 6 marce era il più bello di tutti, proprio bello. Aveva un bel motore. Quello lì a me l'avevano venduto già a seconda mano con il carburatore da 22 e la Marmita Spillo, attaccante o camminava, era nuovo quando me l'avevano venduto, usato pochissimo, perché questo poi si aveva comprato il KTM, la competizione, e si aveva venduto con lui per comprarsi il KTM. Di chi stai parlando? Di Mutiledo o di Porcella? No, era nel Mutiledo della Porcella. Si chiamava Capita Marcello Capita. No, perché KTM non ce n'erano molti, ce n'aveva uno Francolino Meloni, uno l'aveva preso a coso, Vanacore, non Vanacore, che si chiama Mutinelli, pochissime. Cos'era il KTM, arancione o celeste? Mi pare che fa arancione. Quello era di Porto Torres questo qua, lo chiamo compagno di Porto Torres, ma ce l'ho capito. C'aveva le, il cavallero, poi si è accompagnato il KTM la competizione, senza targa girava per la città come un pazzo camminava, una volta ho perseguito anche il vigile a Porto Torres. Ma prima si poteva fare, per fare sani subito. Beh signori, io devo concludere, sovrano l'orologio, sono in radio 2 ore e 55 minuti, quasi 3 ore attaccato alla radio. Per cui vi saluto a tutti quanti, che adesso mi hanno chiamato a mangiare, ciao Gianni, ciao Luca e tutti gli eventuali amici in ascolto. Cuore da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao Robert, stai bene. Avanti Luca. Grazie. Vado a mangiare anche io la giusta, se l'ascolto ci sentiamo, ciao ciao.